breve. Sto uscendo, è tutto buono, sto uscendo. C'è anche Giampaolo Silvestro, buongiorno a tutti, va, avanti Giampaolo. Qua è Apollo Torres, com'è? E anche qua è barriere di voce. Karaoke e ci sarà un po' di macello. Sempre la fila del gente, Gio, vabbè. Giustamente. Vai, vai, qua è l'uomo ubriacone, va. Dai, è cazzo ubriacone, io non bevo, lo sai che io non bevo. Adesso se mi posso prendere il caffè, ma proprio liquori, niente. Vai, vai, Giuseppe. Però fumi. Però fumo, beh, è quello il discorso. Fumo. Fumo. Io sono sincero, a me ogni tanto guarda un flash, uno smaltino dolce, ma bevo uno, due, tre. Sì, vabbè, ma Luca, sai cos'è il discorso? Che adesso se tutto va bene, se tutto va bene, smettiamo di fumare perché l'ha ordinata anche la dottoressa, hai capito? Troppe scariche. Sei costretto a smettere, smetti. E se lo vedi tu. Perché è un casino nero. Non si bu, non si bu. Fa male, bu. Comunque non ti ha smesso la sigaretta, quella elettronica. Cappa. Va bene che sono arrivato, dai. Rimollo e ci sentiamo alle prossime, dai, ciao ciao. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao. Allora, per dire, ragazzi, mio figlio si è comprata e ogni tanto la sigaretta se la fuma lo stesso. Sbagliato già. L'unica mola la ricordo e basta, non ci sono altre alternative. Sì, lo so, non è facile. Ma neanche per me è stato facile, però io dal giorno 19 novembre del 2008 non ho più toccato una sigaretta. Ma tu aspetta, ce l'ho fatta. Stavo messo a circolare e poi ho preso con la macchina. Va bene, quello. Poi ero buono strano, non fumavo roba. Oh, come mai viene mai, Che lo sa mai, riprendo, propositi di non riprendere. Vabbè, non può mai dire di quella parola nel merco. Ricorderò sempre. No. Ma tu devi partire un proposito che ce la devi fare, che non lo riprenderai più perché se stai bene. Io guarda, stavo così bene quando non fumavo, era una cosa tremenda. Guarda. Stavo troppo bene quando non fumavo. Che ci vuoi fare? Purtroppo è così. Comunque, vidimus, ancora siamo qua e poi si vedrà. Dove c'è un faccio, poi mia madre cosa ha fatto ieri? Senti la scena, ha preso la roba ieri sera. Siccome è preso un bici a casa mia, è tutto pieno di caminetti e stufe a legno. A legna. Cazzo, tutta la roba, tutta puzzosa di fumo. Ma io dico, c'è la nostra notte che lasciano i caminetti e tu ti metti a prendere la roba. Ah, non la vuole quella roba, io voglio qua oggi non me le metto. Facciamo dalla parte, beh. Purtroppo c'è freddo, la gente non ci pensa a queste cose che uno c'è nella roba. Pensa a riscaldarsi. Ma uno schifo, poi ci mettono di tutto nella stufa già. Capisco. Cazzo. Ma qua no adesso, ma ci sono temporali fuori. Sta di rotto qua. Mi allucinante. Ma qua l'altro non è ancora arrivata. Ci sono gli animalisti davanti al circo e la parte della polizia voleva cosa vogliono fare. Ci hanno la maschera degli orsi e le pettorine con i leoni disegnati in gatto. Pettorine con leone disegnati in gabbia, sono animalisti, non fanno casino perché usano gli animali al circo, eccetera, eccetera. Chi no, ci sono gli animalisti, la polizia, la pattuglia ferma. Poi lo volantino la gente che entra al circo, scontate, con i maltrattamenti degli animali, eccetera, eccetera. Polizia municipale. principale è passato, gli ha chiesto un volantino e se ne sono andati. Ah, c'è la volante, dai. Tanto gli era solo? Non mi sta leggendo il giornale, mi stavo leggendo, e sto aspettando a fare l'orario perché devo andare alla mia sorella, quindi ho esco, tanto in casa devono fare pulizie e cose. Cioè, adesso sto un volantino adesso, aspetta. Vediamo un po'. Ecco qua fatto. Qui l'ho cambiato, mi è dato un po' di mattana perché non entravo nei buchi. Ho dovuto un po' rifilare il filo, cioè farò più sottile. Adesso diciamo che va bene, perché l'altro era molto corto. Comunque ho saldato e l'ho comprato, una meraviglia, Però, c'è un però, che le punte sono diverse, non sono piccole come quelle che se ti ricordi l'altra, quella che hai comprato la tua. Vieni tu. Lo so. Fino alla tenda di casa da qua e devi mollare, ciao, tipo un tubo, no? Tu lo tiri. La punta è un bel grande. Però, siccome va dentro questo tubicino da saldatore, ogni tanto non ne esce. Io sto pensando che magari questo qua, col mezzo del tempo, che scada, questo coso non esce più già. Cioè la punta non esce più. Ah no, magari è un po' si incolla perché forma dell'ossido sicuramente. Come scada con la patina che forma scaldando. E anche io ce l'ho così, io l'avevo preso da Fusaro e poi lo trovi le punte di tutte le punte che vuoi, eccetera. Io avevo comprato anche un bel po' di punte di modo che se dovevo cambiare ce l'avevo già il ricambio, capito? Da costa 4 euro mi sa questa qua, 4-5 euro. Pagato. E stavolta davanti al cancello a distribuire il volante. C'è il circo? E via, c'è il circo al quadrato. E ci sono gli animalisti che sono contrari a far lavorare gli animali nei circhi, poi dice che li trattano male. Secondo me il tempo scala domani, se io sono uguale, sarà lì che il tuo parere bloccato. Non basta che sia uguale, no, no. Ma praticamente, come ti posso dire, la lunghezza è apparatura più lungo di quello normale, diciamo, la punta, no? Però è in mezzo, cioè come qualcosa se fosse un palo, capito già? 1.0 mm sottile anche. Dovevo comprare uno sottile per questo, proprio piccole mi serve, capito? Mi serve. Si mette in moto e così comincia a andare via. Vabbè, quando sei arrivata avvisa, perché io poi mi assento. Sarà giusto partendo. Ma dici, secondo la qualche fa se ne scappa. E poi dice, non si dice, ma tu parli dalla macchina. Ma sono macchina. Caricare, un attimino, aspetta. Perché un tempo che c'è anche da team, mi ha detto, non lo sto più usando. Adesso aspetto, fino a scadere, e dopo un cambio di attore. Però la porta a volo a fondo. Tanto loro non mi hanno mai niente, capito? Quello schifo fanno. Attimi quasi, gaga. Devo attimo, mi trovo bene. Vai più team. Prima erano delle buone la team. Ma adesso fa schifo. Non mi hanno mai regalato niente. Una promozione, mai. Queste sono le auricolari. Comunque già che gli vuole un cellulare. Se interessa, l'Ace, quello nero, quello mio, lo sto prendendo, 100 euro. Gli ho cambiato anche il touch, quindi l'auricolare, il telefono funziona benissimo, se senti qualcosa che mi interessa, fammi sapere. E la persiana. Ehi, ciao a tu. E Daniele, Luca, sbattila la persiana col cellulare, sbattila. Daniele. Era Daniele. Sì, va a coca di vai. Chi è? Sono Antonio. Aspetta un attimo che regolo questa cosa. Da quando sono diventati tutti da diamanturi spariti dalla frequenza, già tu vai a però che un paio di gugumari. Fai da bravo. Fai da bravo, tu lo guio, vai. Però quello che stai dicendo, che non sto modulando neanche lì, fai da bravo. Sì, tutti i pariti, sì, di tutti. A me ha lasciato molta la frequenza. Infatti neanche concessione pago. Ma funzionato come mai nessuno. Cosa va da qua? Non sono i 13 euro, 13 o 15, non so quanto sono. Mi fanno né ricco né povero, però non c'è mai nessuno. Preferisco che vuole essere di lì, ma li mangio io, piuttosto che dati a loro. Quindi non ho potuto, quando sarà, tipo, dopo di anni, rientro. A parte che si vede che non hai mai pagato, non fa il dogo, perché sono 12 euro. Lo vedi, non hai mai pagato, quindi mutu e fai da bravo, se no schiaffoni a bocca. Dimmi, faccio quello che volete, mi ho pagato, quindi se io ho sgarrato di qualche anno, ti regalo due telefonini, vieni. Io pago sempre il 2, sempre, tutti gli anni, mia moglie mi prende anche in giro, cioè la prima cosa importante è quella. Ciao Gianni. Ciao a tu. Cosa c'hai Luca? Cosa ti sei svegliato con le scarpe bagnate? No, vieni, sei uno sgarro di un pagamento, io ti regalo due telefonini fiammanti e costui soprattutto, vieni. E ci non mi ha pagato, pensavo che ne fosse aumentato, perché un cliente dice, io ho da 13 a 15, no, si comprendi, se è aumentato o meno. Luca, però se ti mancavo non c'era bisogno di fare questo scandalo, bastava telefonarmi, glielo sai cuore a cuore, già ce la facevamo una chiacchierata. Mancava. Evidentemente ti mancavo, mi hai detto che sono sempre nell'altra frequenza, mica ti voglio bene lo stesso. No, ma dico, io parlo in generale, non c'è più nessuno qua. Cosa... Lo so, sono pochi 13, non sono tanti, ma dico, fratelli a loro, preferisco dare mai a mia nipote, no? Anche se sono annuali. Però fratelli a loro, ma se io dici che vogliamo i nipoti. E già hai ragione, comunque non è vero che non c'è gente, anche ieri sera c'era QSO e che tu sei sempre attaccato al computer, quindi finita che non è vero, anche ieri mattina c'era gente, ho modulato con Gianni, ho modulato con Gio Maria. No, comunque c'è una persona che non mi sta tanto simpatica, non c'entro neanche, se capita che siamo nel canale nostro, diciamo, va bene. Ma chi è questa persona? Dimmelo, dillo a me, dillo però! Ci sei? Sono! Via Mendo, da Napoli, con la zona. Mica stai arrivando malissimo, sono io che ho problemi con l'antenna, o sei tu? Non lo so, boh! Scarica elettromagnetica, buttatura, cambio. questo cosa, questo stecco di potenza, questo picchio di potenza. Ola, senti come rulla, ola, ola, ola, non ti piace? Paola. Non ci vuoi avvicinarti a vendere? Negativo, non ho copiato quello che hai detto, non ci vai? Vicino al circo a vendere lo zucchero. Oggi è la giornata ideale. Non ci vado, se vogliono vedermi devono venire a casa, devono venire. Cambio. Ci sono anche gli animalisti oggi. Ma penso che se ne vada in fretta se piove. Ci sono gli animalisti davanti al circo e stanno distribuendo i volantini. Sì, un po' caldo, infusi, come ti si dice, in sassaresu. Io li amo gli animali tutto quanto, però non penso che al circo li trattino male, perché li vedo che hanno un po' amore per gli animali, poi se lo fanno per fare farsa, non lo so. Gli animali li trattano male, li trattano. Non è così, cioè non, certamente non stanno bene, gli animali devono essere liberi in natura. C'ho ragione, Luca. Vedi, non c'è nessuno e poi se ne va. Luca! E che sei adesso? Con un 48 with helicopter. Oh, non so che di eco, ma appena. Questo è l'eco cold. Ora, adesso l'ho tolto. Cosa c'è? Qualche modificato? Un 48 caffone di quelli da battaglia. Ora, ora. Anche tu l'apparato modificato? Gianni, ce l'avevo da 3 mesi a questa parte, stavo uscendo con questo. 1, 2, 3, prova. Cambio. E dove stai andando, Gian? A fare il mio dovere. No, tu vai nel sole, la più andata. Gaba. Aspetta un attimo, sta arrivando una bassa. Mi sono impazzito, lo sa. Ho detto che aveva qualche problema. Cosa, si è scaricato di nuovo? No, adesso per dire vai a abbassare il volume e si apre lo squelch. Se tu chitassi il volume attiva lo squelch invece che attivare il volume, no? Abbassarlo e alzarlo e ti attiva lo squelch. Poi vai nell'altro dello squelch e ti attiva lo stesso lo squelch. Il volume non funziona più. Vabbè, aspetta che c'è una bassa un attimo già. Chi è che c'era sul canale? Ci sono sempre, ma me ne sto andando perché sto per salire, sono già arrivato a Piandanna e sono qua a San Nicola, sono già arrivato, anche se le tratte a mezzogiorno, ma se riesco a andarmene prima è meglio perché sta piovendo troppo oggi. Dai, fammi una chiamata che rimango qua in radioascolto. Luca, che fine hai fatto? 15 metri già mi posso trattenere, se non disturbo i macchinari. Staccato. Ma che ora vai via? Che ora ti mandano via? Non riesco a resistere più di tanto, io ci sto un quarto d'ora al massimo, poi me ne vado. Devo vedere, insomma, come sta, è sempre al solito, quindi ti puoi immaginare il piacere che possa fare e restare di... Non lo dire a me che per un motivo o per l'altro ci sono stato, per carità. Non è sicuramente piacevole. E vabbè. E va buono. Ma è lo Sparviero, non si è sentito? Sparviero, ci sei? Sta andando ancora, oggi brutta giornata. Sta lavorando e andando. Secondo me è andato a Cioga. Ma hai visto quella famiglia che hanno dato il suo bietole, c'era una piatta che era precisa, identica alla bietola, a casa di tutti i gatti avvelenati. Un classico. Aspetta, che sta tornando qua vicino, mi sa che devo staccare. Mica ogni tono. Vabbè che c'ho l'antenna piegata, quindi è difficile che faccia la parafulmine. Ma tu, ascolta, se ti capita, ma l'ordine di quell'apparecchietto là? Che problema, se vuoi, anche adesso. Io poi ti do i soldi quando ci vediamo, e ti do i soldi. Non preoccupare. Quale vuoi? Uguale? Quello lì va bene, là. Quello va bene. arrivare a quanto? Perché adesso non mi ricordo se io l'avessi preso in coso, all'asta. Comunque intorno ai 29 euro costa, 29 o 35 al massimo. Dai, 29 e 35, dai. Già va bene, dai. Così puoi anche trovarmi le frequenze, quello lì, dai. E me mi ascolto quello, perché quello là non si può più ascoltare là, perché tutto ha tutto il volume e non posso fare ascolto. Già, devo staccare, ci sono tuoni troppo vicino, dai. E c'ho anche la mano attaccata alla cosa, alla massa. Ci sentiamo dopo, te lo faccio sapere comunque. Già va bene, dai, ora. Grandinare la vita. Se mi piacciono gli animali di genere, mi piace vederli anche lavorare, ecco. Di che se ne sanno a maltrattare gli animali, non ho capito, cioè se ci vivono loro, gli danno anche da mangiare, nel senso lo spettacolo, fa parte dello spettacolo, il domatore vive, gli dà da mangiare, li tratta da come, cioè non ne ho mai sentito, oppure ci sarà qualche caso raro, ma non ci credo che un domatore maltratti l'animale, cosa ne avrebbe, cioè che interesse avrebbe? Vabbè, ci sono anche quelli che maltrattano i bambini, solo gli animali, ma sono casi di gente snaturata e cose così. Ma lo so, purtroppo ci sono degli estremi, ci sono da tutte le parti, e come dire, pure tutti, c'è il capo uno sporco e la maggior parte sono buoni, e in manca sono tutti bravi e c'è il cacciere fasullo, tutte le parti, ma non bisogna fare di tutto, non è un fascio, perché a me cari devono pensare a cose più importanti, come questo fatto delle ulico, stanno bloccando tutto, cacchio, poi si lamentano perché le bollette della luce sono troppo care, il petrolio sale, eccetera, eccetera, noi dipendiamo dal petrolio, se riusciamo a trovare le energie alternative, il vento non fa nessun danno. Quando ti stufi lo prendi e lo smonti, non è per dire come una centrale nucleare per le scurie eccetera eccetera, una centrale eolica non sporca, non inquina e basta, bisogna ancora sostenere. E senza contare i posti di lavoro. Non so, ma a me questa gente che si lamenta, questi ambientalisti, cioè bloccano delle attività, adesso per dire un esempio fresco, a Platamona volevano fare una cosa bella, c'era un progetto bellissimo, hai visto tu lo stagno di Platamona, quel pulso di granaio di Mondezza, tutto pieno di animali, è uno schifo, di lì a fianco, di lì sotto dove ci sono i semafori prima di arrivare al netto, di lì c'è il canalone, e quel canalone scarica a mare a fianco alla torretta, prima della torretta, di lì c'era un progetto di far entrare, proprio di scaricare pulita l'acqua del mare, in modo che ci fosse un ricambio di acqua, fare tipo un porto canale, è una cosa bellina, l'avevo visto il progetto, ma bello veramente, allargarlo un pochettino, fare dei ponticelli, fare piccoli ristoranti, cioè fare attività in modo da attirare la gente, nulla, hanno bloccato tutto, perché dice che è uno dei pochi laghi naturali d'Europa o d'Italia, non lo so, un ammasso di animali, se tu entri di gente è tutto zanzare, cavallette, animali fastidiosi, è tutto pieno, perché non gli danno lo sbocco, tu vedi c'è un odore di zozzeria quando entri d'estate, quando c'è caldo, sembra che sta ribollendo quell'acqua e si formano tutti gli animali perché l'acqua non ricambia, eppure cacchio hanno bloccato anche quello. Sì, perché è acqua stagna, è normale che puzzi, poi alla fine ho visto che hanno fatto delle passerelle per fare trekking e roba del genere, è una cosa bellina, ci vorrei andare qualche giorno vestiti un po' quando fa bel tempo, a fare un po' di ginnastica lì, è molto bello, lo volevo portare a Marcolino un giorno, non c'è voluto venire, altro che la paura. Ma c'è bellino, mia figlia qualche volta d'estate andiamo con tutte le amichette, anche qualche donna grande, accompagnare, facciamo tutta quella bella camminata, è lunga amico la stradetta, un paio di chilometri, sono 2-3 chilometri, forse anche qualcosina in più, e ti fai tutto pazzo in mezzo allo stagno, diciamo, è carino solo per quello, ma lo stagno è un mondo estraneo, è tipo una cosa, come si chiama, ferma, tipo una palude, non è, non si muove, ma appoggiamo a stagno. Ma ne vogliamo parlare che scaricavano le fogne lì, i villaggi che ci sono lì vicino, scaricavano le fogne, li hanno montati anche perché avevano trovato degli scarichi fognati. Certo, è vero, c'è ragione, hanno fatto mettere il depuratore, ma quanti anni erano che inquinavano? Infatti. E invece lì si potrebbe fare anche un bel posticino anche per pescare, coso, no? Sarebbe, perché lì ce ne sono i pesci. Già, c'erano, adesso non ne ho più sentito di gente che ha pescato di lì perché è chiusa l'acqua, non ha ricambio, prima c'è un fucello, un granellino di acqua che ne esce vicino alla torretta, perché hanno tutto chiuso, hanno avuto, come si chiamano, ci sono stati dei crulli all'interno del canale, se tu lo guardi sto bloccando, l'anno scorso quest'estate dei ragazzi di Platamona, amici miei, per secondo me si sono fatto il bagno, si sono tuffati, c'è una specie di ponte, una specie di diga, dai, che cosa ne va tu? Lo bagno, ogni schifo. Ah, per carità, quindi biglietti di malattie, quindi ti prendi le malattie alla pelle, eccetera. Lo so, ma aspetta, ma voi siete malati, ogni tuffo, proprio si sono tuffati come che ti butti dal porto, me. Forse è più sporca dell'acqua del porto. Sì, per carità. Sono lì, mi ricordo che quando pioveva dovevo stare attento, avevo schiacciato i rustri, andavano in mezzo alla strada. C'erano un po' di rosso, di rane e cose del genere. Ancora, e perché non ne vedi mai le papelle? non ti è mai capitato di incontrare le anatre, i ricci, tartarughe, di tutto c'è di lì. Sì, perché c'è umidità, magari vanno lì per quello. Però è abbandonato di per sé come stagno, si potrebbe valorizzare. Certo, ma è una cosa bellina. Tu allora, quando avevano bruciato, che avevano fatto un sacco di casotto, distrutto, non sai quanto era bello, senza le canne, tutta quella mondezza di erbacce che ci sono di lì, avevano bruciato, poi sono cresciute, dopo due mesi erano di nuovo cresciute le canne, era bellissimo, cioè lo vedevi proprio bello, faceva piacere vederlo. Se lo guardi adesso è tutto nascosto, in mezzo alla cosa, al rottame della mondezza, di coso, di erbacce, di tutto, se l'avessero curato e pulito facendogli un ricambio d'aria e di acqua, vedete la cosa andava meglio. E poi ci sono muri di pesci perché li brucia l'ossigeno d'estate, essendo ferma l'acqua si scalda e brucia l'ossigeno. Certo, infatti rimane, se tu ci saranno 30 gradi arriverà l'acqua chiusa di lì, perché proprio si vedono i vapori. A proposito di esperimenti, sto facendo un allevamento di triox, di animali che hanno vissuto nella preistoria. Una clonazione, ho sentito io. I casi sono animali che c'erano nella preistoria, sono dei tipi di crostacei. Il crostaceo è diciamo il pesce, c'ha la coda come il pesce e coglio. E mi sono fatto arrivare le uova e le ho messe nell'acquario alla temperatura sua, però devi allevarle con acqua distillata e si stanno schiudendo, ne sono nati un po'. Ah, tu l'hai fatto, no, pensavo, avevo capito male. No, perché dice che i russi hanno trovato un mammut piccolino, cucciolo, in perfetto stato di conservazione, ghiacciato nel coso della Siberia. E lo vogliono clonare per farlo rinascere col DNA. Allora, gli abbiamo regalato a Marco praticamente un gioco della preistoria. E si piantano le piantine, si mettono i semi, crescono le piantine, e più c'era questa vasca dove c'era il termometro, eccetera, eccetera. E cioè, si poteva fare una richiesta su internet di queste uova, ti mandano le uova gratis e più anche il mangime per quelle da mangiare, però li puoi dare anche il mangime dei pesci, la stessa cosa. E sono dei crostacei che hanno vissuto nella preistoria e tutto la si trovano, capito? E Marco, là tanto facciamo e siamo matti da questo. Sono soddisfatto, adesso l'acquario è bello, a me mi piace tantissimo, però è un travaglio già. E poi se ti devi allontanare per qualche settimana in vacanza devi essere preoccupato che muoiano tutti. No, non è così, Robè. La tecnologia ha studiato tutto, praticamente c'è la mangiatoia automatica, che io da mangiare non gliene do mai, gli mettono la mangiatoia automatica, a determinatore gli dà da mangiare, gira questa cosa e gli dà da mangiare, capito? Quindi tu puoi allontanarti tranquillamente, anche per mesi, la mangiatoia, basta che tu la riempi, gli dà da mangiare sotto, gli cambi la batteria prima di partire, di modo che sia la batteria. Ma la batteria dura un bel tempo. E io ho sentito quelli che hanno il depuratore e cose del genere, che è mancata la luce, non so cosa è successo, qualche problema alla luce, è tornato a casa tutto il becimurti. E se manca la luce è un problema, perché c'è il termoriscaldatore e l'ossigenatore che fa il depuratore che fa girare l'acqua, che quello funziona all'elettrico, quindi c'hanno anche un determinato consumo. Lo so. Ma sono belli, a me mi piacciono. C'è cognato mio fratello che ce l'ha l'acqua di mare. Tu devi vedere ogni travaglio, perché adesso aveva tolto le piante, prima metteva anche le piante, e dovrà andare ogni giorno a prendere l'acqua di mare con i bidoni. Lui vabbè abita vicino a Ottava, ma ogni dia piglia leva nuova. Ma cosa ci ha messo? Roba tropicale o roba di mare che abbiamo noi? No, animali rustici aveva, ha fatto un coso del Mediterraneo, ma certo non gli dovrebbe, alla fine ha eliminato tutto, ha tenuto solo quegli animali che possono reggere, quelli più furti. Allora, io praticamente ho amici e anche come si chiama, Massimiliano, quello che praticamente agli scapparati e roba del genere. Quello lì ce l'ha di acqua tropicale, anche di acqua dolce, sempre tropicale. E mi sta andando bene, non è che è un bel bello l'acquario, ma adesso c'hanno gli salatori, c'hanno tutto, lui l'avrà fatto a vivo l'artigianale, capito? L'acqua non si cambia così. Sono praticamente, ci sono dei salatori che gli salano l'acqua, tu li puoi mettere l'acqua e poi aggiungi questa cosa e te la sa, non c'è più bisogno di andare in mare a prenderla. Diciamo che qui a livello artigianale, come ce l'ha anche Alessandro Poventosi, che ci mette pesci tipo, vedete così, c'è il polpo, c'è altri animali che pesca, altri pesci che pesca, come c'è un amico che quando pesca i pesci, se vede che hanno dei bei colori, che sono belli, li mette nell'acquario, ma lui se l'ha fatto la 500 litri, l'ha fatto lui, è un bel bello l'acquario. Sì, già lo so, a me piace, non so se è andato a Genova, ma è andato in sala qua. Ci sono andato perché quando siamo andati siamo andati con degli amici che non è che sono molto entusiasti degli animali, non li piace assai, e non ci sono voluti andare, però io sarei voluto andare, non sono mai andato, vabbè, sarei voluto andare, sono andato a quello di Alghero, a vederlo, è molto bello anche quello lì. Spettacolare, poi vedi di tutto, tutti i generi di animali. Diciamo, magari non è che mi piaccia molto vedere quelli gli squali, quei padiglioni grandi, ci sono delle vacche enormi dove ci sono gli squali, i delfini, però tu quando vedi l'ambiente il suo, vedi delle vacche dove vedi proprio il coso tropicale, con le grotte, con tutti gli animali, per dire, vedi varietà di animali, di piante, è una cosa spettacolare. Poi c'è la cosa, come si chiama? Come la chiamano? La cosa dei colibri, proprio su tutto sembra che stai entrando dentro una foresta, ci sono tutti gli animali, dalle lucertole agli insetti, guarda, una cosa da vedere. E poi ci sono le vasche dove ci sono le razze, le torpedini, che dice poi qualcuno la può anche toccare, dico le razze, si fanno accarezzare. È veramente bello, io sono andato due volte, anche di recente, ed è bellissimo. Poi c'è il petto dei pinguini, è spettacolare, proprio in mezzo al ghiaccio sei di dentro, è un freddo, però è troppo bello. E poi dici, se vai a Genova ti dico, ti consiglio di andare vicino all'acquario, c'è il galeone, quello che hanno fatto il film I Pirati. Se vai ridendo, quella è la cosa che mi è piaciuta più di tutto. Io sono andato all'acquario di Roma anche, adesso che mi sono ricordato, lì ci sono, c'è il delfinario, praticamente tu scendi giù e sembri che sei sott'acqua in mezzo ai delfini, è troppo bello. C'è il delfinario, poi ci sono i vari animali, i vari pesci tropicali, ci sono pesci mediterraneo, insomma sono diverse varietà di pesci, ma anche quello di Alghero è bello, se non so se è mai andato, però quello di Alghero in piccolo però è bello, ci sono orate grandi, ci sono tutta roba mediterranea con l'Alghero, poi ci sono anche in Pirania, ci sono i pirani, a qualche pesce tropicale, le tartarughe marine, tutte quelle cose lì, e tu quando ti avvicini al vetro si avvicinano quasi come per farsi fotografare. Gronghi, non ce n'hai gronghi? I gronghi nell'acquario tuo. Di acquario? No, dico, se c'è qualche grongo lì magari c'è, e viene a mare per fare la zuppa. Proprio il grongo non mi piace, non so, io quando li pescavo li regalavo, ci andavo io prima solo a grongo, mettevo i filaccioni con lo zarretto, ma sai come li prendi? Anche a Monocattaneo lì era pieno, una volta siamo andati con due notavoli che aveva preso un polpo che era enorme, poi era piove. Buongiorno a tutti, non c'è solo essere, ho collegato le antenne, guarda, tutto scollegato, queste giornate così, e forse è meglio tenere un po' in avaria le antenne. Ciao Gianni e Roberto, mi pare ci fosse anche Luca, eccetera eccetera. E allora vabbè, cosa mi dici? No, dovevi tornare a sabato, vabbè. Cosa volevo dire? Già, ci sono andato anche io con l'Alghero anni fa, pure bello lo stesso, nel suo piccolo è carino. Quello là funziona, quello a 110, a posto l'ho provato, ho fatto una specie di scatoletta tra radio di l'altro, dovevo stavo iniziando a farlo, poi si è fatto tardi perché sono dovuto andare a accompagnare mio cugino dal meccanico e non ho fatto niente. Ma non funziona uno, non è che non vuole funzionare due. Con uno faccio funzionare la linea valvolare e il back, capito? Va bene, non ti preoccupare. Benetti, ma potevo arrivare alle 11 e non ce l'ho fatta. Dovevo andare a fare quelle altre cose, non ce l'ho fatta. Se c'eri magari un po' più tardi, allora già non c'era un problema. No, ma è stata via alle 11, non ce l'ho fatta. Ok, va bene. Vabbè, niente, volevo dire una cosa a Gianni, ma qua non te la posso dire, magari ci sentiamo per telefono. Avanti Gianni, le prendi, chi c'è poi? Anche Luca. Poco fa c'era, non lo so, Luca ci sei? Stavo deciso. Stamattina stavo ipotizzando, è tanto ora, il Tobbe Claudio non è entrato, il Tobbe Claudio sta lavorando e andando ancora, perché non sentirlo strano. Sono sceso da Giampaolo che dovevo portare la roba, poi sono andato a ritirare un'altra radio. Sono uscito presto, alle 8:30 ero già in giro. Sono passato a Ottava a trovare Gigi, poi ho tirato dritto, sono fatto un po' di commissione e poi me ne sono entrato a casa perché stava diluviando. Io esco sempre presto la mattina, alle 8:30 alla 9, avevo aperto le scene. Il giornale, il caffè, tutta la mattina, ci vado lì e poi se non mi accorgo me rientro a casa e metto il radio. Altrimenti, ma qui c'è l'Antonio e l'Antonio Rode, si stanno parlando con me poco fa, a 5:25. Magari tanto dopo. Anche io sono passato stamattina verso la 9:30 al signor Rico, ho preso le sigarette, ho preso il giornale, mi sono fermato 5 minuti a leggere il giornale e c'erano quei, come si chiama, gli animalisti davanti al coro, stavano dando i manifesti, i cartelli eccetera eccetera alla gente. No, hai fatto, arrivando tu andando via io. Io sono andato via, erano 9 e qualche minuto ho preso i cornetti, li ho portati a casa alle femminucce e poi sono riuscito, sono sceso a Prodottore, se hai capito. Tutto qua. Va bene. Va bene, va bene. Vabbè, a te il microfono. Sta dicendo Cla, ma tu ci hai pensato a metterlo direttamente dentro l'alimentatore antiche furie nel DAC, se c'è spazio. Ho messo in un angolino, anche quello piccolino, l'altro, non quello grosso. Nel DAC ce n'è spazio, ma io lo metto all'esterno perché ho le due alimentazioni, sia del DAC che della linea di cluster, capito? Della linea valvolare. E quindi ho necessità di usarne uno e alimentare due, tanto non è che li accendo tutti e due assieme. Oppure uno, quello piccolo, lo rimetto sul DAC, quello che si è bruciato, e quello nuovo lo metto sulla linea valvolare. No, perché il piccolino c'ha 100 watt massimi, per cui sarà una cinquantina di watt continui, li puoi dare. Se ne metti due apparati lo sciogli di nuovo, fate subito immediatamente il fusibile. No, ne mettiamo due, vabbè. Quello grande lo metto per forza sulla linea valvolare, e quello c'ha 150 watt, vabbè. 200 picco, ma 150 modulati. Mentre il DAC c'ha 25 watt e 50 in banda laterale, quindi va bene quello lì. Ma non ho capito perché stavo modulando e si è spenta la radio. Sono andato subito a controllare il fusibile della radio, ma non ha mai avuto nessun problema. E invece era partito il trasformatore, quello aggiuntivo esterno, diciamo, da 220 a 110, però la radio è a posto, il cavo è tutto in originale, no? Non è successo assolutamente niente. E boh, qualche smalto di tensione, qualcosa, boh, non so dove è successo. Dove sei già? Guarda. Che meno sta ancora? No, ragazzi, qua spesso. Ci sono fermato 5 minuti e ho detto, fumo una sigaretta e poi mi torno a casa. E ero da mia sorella. Ci ho passato poco fa a farmi un giro, ma non vedo nessuno. Ho detto, mi leggo il giornale e poi vado a trovare l'aereo. Vabbè, con la tua intenzione di fermarti al quadrato un po' prima, come mandi un messaggio, mi fai un colpo di telefono, te lo ripeto, ogni mattina salgo sempre al quadrato. Oggi sono andato via presto perché, ma rimango anche un paio d'ore lì nel piazzale, la signora Enrico, capito? Ma sono andato via prima perché c'avevo appuntamento da Giampaolo, devo portarle la radio. Va bene, va bene. Sì, va bene, comunque, già va bene, dai, ci vediamo domani. non c'è problema, tanto io ci siamo mercoledì, sono ancora a casa. Speriamo che cambi sto maledetto tempo, c'ho due rotture da piazzare. Ma io sono già piazzato già, vabbè, ci vuole poco, perché ancora è molto basso, continua lassù. Piazzato la direttiva dall'altra parte, l'autostrada, vabbè, c'è la parabola, riesci a vedere dalla rotonda. Però c'è un cambio sto cacchio di tempo, boh. Sai che sto aspettando che facciamo il tempo per abbassare l'antenna perché mi si è troncato il radiale e lo devo sostituire. Che cosa già? Già non ci vuole niente. Come cambia il tempo, basta abbassare un attimino. E io se non c'è tempo bello non posso fare niente, è troppo pericoloso. Poi l'antenna c'è il radiale di 10 metri. C'è un buon lungo 6 metri e 20, quindi da solo viene un po' male a lavorarci. Vabbè, sono riuscito a allinearlo a quello qua, l'ho messo dritto, però come hai detto tu fa 20 gradi a destra, 20 gradi a sinistra e poi si blocca. Deve esserci qualche cosa, non aprirlo dentro perché tanto non ci puoi fare niente, perché come si chiama, ci sono delle sfere all'interno, una volta l'ottuglio c'è una pupilla e un macello, puoi ripiazzarlo, almeno usatelo per quel poco che funziona. È un peccato mio perché quello è nuovo, è stato cambiato in garanzia. No, a me quello li va benissimo perché tanto la monobanda dei 10 metri quella lì lavora, però ecco, quella deve andare in Sud America, puntata così, Sud America, e deve fare 20 gradi a destra, 20 gradi a sinistra per lo spostamento e basta. Per il resto non mi interessa, c'è l'altro rotore con l'altra 10, 15, 20 e 40 metri, non c'è problema. Va ultra bene, non bene, ultra bene. Poi anche l'altra 9 metri, quella che vuole forza, ce l'ha già il rotore, quindi mia. Antonio sta chiamando, ok. Va bene, a te Gianni. Sì, io. Quindi sei con lavori grossi. Va bene, adesso mi stanno nascendo come i funghi in queste direttive a Sassari. Cosa ha messo la IAGI, no? Sì, ho messo la IAGI tre elementi full size, quindi nuovo bene per i 10 metri. Poi un'altra IAGI 10, 15, 20 col kit dei 40 metri, quella è una 3 elementi più una, 4 elementi, e poi praticamente devo spostare quella, la 9 elementi per le VHF. Ma là, non so come funziona la loro, e torno mettendo a presso gli altri, se non mai delle direttive non mi è mai interessato niente, io da qua su lavoro molto bene anche con le filari, quindi non me ne frutti nulla, però lo sto facendo e basta, lo faccio. Ma magari ti danno più soddisfazione le direttive perché le puoi orientare dove vuoi, mentre il filare già lo sai che direttive sono da parte e basta. E quello lì magari ti dà più soddisfazione, ma poi rotare dove vuoi, i segnali saranno anche un po' diversi, dai. Lo so, beh, il provocio io non lavora da una parte solo, è un quadribanda quello, quindi lavora praticamente su davanti, dietro e gli angoli, quello di Marco, quello che c'era Marco è 30 metri con di poco, lavora con l'azione orizzontale. E 10, 15, 20 e 40 metri e sono praticamente monobanda per i 10, monobanda per i 20, monobanda per, capito? È un dipolo tutto unificato, fatto da persone, tiene 3 kW, quindi immagino che sto lavorando con quello, ma è una schiappettata. Ho sempre lavorato con lui. Sono belle direttive Gianni, però di giorno non dormi, di giorno non dormi, secondo Rosamonti non dormi, devi stare sempre preoccupato, se ne cade fa danno, è denaro sprecato perché io lo sai, era successo a volte, ci ha rimesso 5.000 euro, io ho comprato roba a poco denaro perché non me ne frega niente, però insomma 500 euro lì, 500 euro là, fai insomma le 1000 o 2000 euro, mi spiace se te ne cade tutto. Ecco perché, tutto lì. Ah, no. Mentre, vabbè, qua c'è qualcuno che vuole entrare, c'è qualcuno che vuole entrare su 5. Operazione, vero? Vabbè, il problema quando c'è tutte quelle antenne, c'è ragione, devi stare molto molto attento con i venti, poi ogni tanto c'è qualche smatturata di vento, hai visto l'altro giorno quel vento che c'era 75 km orari era. Devi stare molto molto attento, soprattutto quando c'hai pali alti, per quel tipo di antenne ci vogliono installazioni alte, se non vai da nessuna parte, hai detto beh, proprio una passione con dei rischi, come succede. Rischioso, tu ti dici racconto, io ho due antenne, compreso anche con la monobanda che non è piccola, perché tieni conto che è praticamente, ti posso dire che il direttore è 20 cm più grande della Yagi, della Echo, quindi anche la Lena faceva delle bellissime direttive, quindi sia questa monobanda per i 10 metri che la Yagi 20, 15 e 40 sono dei bestioni, sembra così, c'hanno 6,50 di boom e 6,50 quando tu calcoli l'obo di radiazione a nord è una raffica del vento, parti lassù e te la cui arginare, bisogna ancorare, bisogna fare, sono dei bellissimi lavori sinceramente, io ho visto lavori fatti ma veramente regolati, però quando c'è un vento ti viene la disperazione, hai capito? Già ti viene per un'antenna verticale, immagino che tu quando hai già due o tre direttive, c'è un travicetto, il vento è il vento, no, non perdona nessuno, non perdona nessuno, bisogna stare molto molto attenti, vabbè, comunque. Guarda come va, io ho fatto un bellissimo lavoro, ho serrato al muro un tubo da tre pollici, un acciaio oscillabile con il telescopio qua all'interno, giusto per tirare su il masterino che serve per far girare l'antenna e basta, non ho dei grossi problemi perché sono già in alto, ma io ho grandi tralicci come Marco, Walter, adesso si è aggiunto anche Fabrizio che ha fatto un mega capolavoro, bisogna stare molto attenti, bisogna tenere conto anche dei venti e dei rischi che si hanno già, capito? Riprendi. E poi tu sei esposto molto ai venti perché siamo qui in alto, quindi è una cosa diciamo un po' più pericolosa, ma se è fatto bene già non dovrebbe avere problemi, dai. Tanto l'hai vista roba quella di Fabrizio, si sporge dal palazzo, allucinante, ma una cosa enorme. No, ho visto, già c'è qua, il problema di queste antenne dentro le abitazioni è quello, devi stare attento oltre che che rompi l'antenna che non è caduto su qualcuno, finché sei tipo Marco, sei indipendente, se succede che cade l'antenna, cade dentro casa tua, fai danno, sì, ma finisce lì, ma se te ne cade a terra, tipo come può cadere una parabola da me, sopra la testa di qualcuno ammazzi la gente o fai dei danni. Lì io, no, prima di cadere su, io c'ho altri 20 metri di terrazzo interno e non è che le antenne mie sono sopra la mantovana, quindi sopra il tetto della mansarda, della mia mansarda tra l'altro, quindi ho tutto altre 20 metri che di piazzare, chiamiamolo così, di tetto che protegge la caduta di qualcosa, ma la mia è impossibile che ne cada, o si spezza o non cade perché sono ancorati. Mentre così a lavoro in città come quello che ha fatto Fabri, lì devi essere molto molto preparato in materia e cercare di fare il lavoro fatto bene, ma è fatto molto bene quello suo, veramente. Io l'ho visto in costruzione, come è stato fatto, come è stato montato, quella è un'antenna che fa tutto, è unica, io purtroppo montando quella qua la troverei, ma neanche un giorno rimane, la troverei alla Ginara perché è troppo grande per montarla a questa altezza. E quindi sono andato sulle antenne Yagi che sono delle direttive che sono più piccole, che tengono, lui praticamente c'ha una monobanda come quella che ho io, i due bracci suoi, lui c'ha la cubica più la monobanda dei 40 metri, che sono due bracci come quelli che ho io, invece di averne due, io ne ho quattro. Capito, però sono scelte, sono scelte. Vabbè, l'importante è sentirsi, l'importante è fare radio, l'importante è siamo tutti uniti e cupudi, loro già, e poi quello che crescendo. Ma io non posso essere far vedere già. Ehi, da molto, non ti ho più visto. Cosa ti stavo dicendo? Marco Scorpio sta ancora operando, perché ho visto che c'è l'antenna abbassata, e come mai? Una parte del traliccio è abbassata perché lì deve montare la pescia che c'ha Fabrizio, la cubica, mentre l'altra è già attivo, l'altra è già sistemata, l'hanno abbassata perché si era rotta, alla chiamata dei vigili del fuoco si era rotto un elemento e anche lì stava rischiando di fare danno, e quindi ha chiamato i vigili del fuoco, hanno abbassato l'antenna tutta, l'ha smontata, adesso l'estate la rimonterà. È un casino. Io ero a Walter, che sono andato a mettere il rotore e anche lui dice qua, e quando c'è il vento preferisco dormire qua io perché è un casino, capito? Break su 5, eh? Avanti! Altri break, Sandro! Avanti break? Buongiorno circolare, dai, Sandro qui, poco Perros. Ciao Gianni, ma ti ascolto un po' bassino, evidentemente sei in macchina. Saluto la mamma mia. E così via, dai. Capo che scende male. Sono entrato giusto per Claudio, potresti dare, devo centrare un attimino questa radio. Ho fatto fatica ad ascoltarti, sei tutto strappato, dovresti abbassare un po' il micchigrino, non lo so. Sì, tutto strappato. Ok. Ok, vediamo qua. Vuoi fare un passaggio? No, sei tutto trattato, Sandro. Ti passo a Roberto, vediamo un po' come ti ascolta lui, non vorrei male che sia la mia radio, Roberto. No, anche qua la parte mia negativo. Sta andando male, tutto saturo, stai trappando. Ok. Ok, allora, aspetta un attimino che mi sono dimenticato una cosa, Sandro, ma mi ascolti sempre male, mi sono spostato. No, stai scendo bene. Ok, vediamo per questo passaggio, si è migliorato. Non è questione di segnale, il segnale è il tuo, 9 più 10, è la radio che è gracchiante, non si capisce la modulazione, dovete abbassare il Mickey Gay, non lo so. Ok, vediamo un po' di abbassare un attimino. Ok, è migliorato? Sembra un po' più comprensibile adesso, migliorato sì. Roberto? Sì, ti ha migliorato, però una domanda, Sandro. Io ogni volta ti sento con una radio diversa, ma una volta che hai regolato, ci è capitato qualche volta di andare bene, benissimo, poi domani di nuovo l'accappo, ma quante radio stai utilizzando o quanti microfoni? Diciamo che di radio non è che ne abbia qualche, diciamo che questa è una radio... una radio dell'anno di nonno, aveva qualche problemino, adesso sono riuscito a tirarne fuori il problema, soltanto che Claudio 101 questo, vai. Sì, va bene, no, io non va bene, devi cercare, come ti ho sempre detto, io è da tanto che non lo uso e sto usando l'altra linea Alicraft col suo microfono originale, però siccome quella radio purtroppo ha un sistema di trasmissione un po' particolare, devi cercarti il punto esatto della trasmissione microfonica e poi lasciarlo lì, perché hanno un acuto molto alto, quindi vai subito a strappare, capito? Ma rimettere un microfono, non so, un microfono battacolo che sia originale, tipo, cosa ti posso dire, un MC50, come gli avevo abbinato io, che va molto bene, oppure microfoni che non siano più amplificati, perché il microfono originale battavano del 101, perlomeno quello che ho io, non è preamplificato, è un microfono da tavola però non preamplificato, non ha circuito di preamplificazione, proprio perché spinge tantissimo il processore che c'ha e quindi ti supera il tono di amplificazione, capito? Cata, ok, vediamo un po' in questo passaggio, io lo so, è talmente fastidioso, talmente a cosa, soltanto che vedi un po' in questo passaggio. È così, va bene, è chiara la modulazione, c'è anche una leggera preamplificazione, non è alto, ma quella radio non è che le puoi portare al massimo, io ero riuscito proprio ad avere una modulazione lineare, ma ti ripeto, con un microfono da tavolo non preamplificato, non so, quelli vecchi della Drake, i vecchi Turner che non hanno preamplificazione, ad esempio quello che c'ho io della Turner è uguale al Turner P2 da tavolo, solo che è tutto cromato in acciaio inossidabile, praticamente in grigio, e non è preamplificato, ed è il microfono proprio originale che va su quei tipi di radio. Dovresti usare uno di quei microfoni, oppure se usi il preamplificato ottenere praticamente quasi a zero e cercare di lavorare leggermente col mic gain della radio. Ecco, questo è il quanto. Ok, dai, no, in questo momento sto usando il suo diciamo il manuale, non sto usando diciamo mic amplificato da base, sto usando il suo, diciamo, sua dotazione, il suo manuale, diciamo, e quant'altro, soltanto che questo deve riscaldare, adesso era fermo e c'aveva un piccolo problemino che mi si era spento, adesso tramite una guida sono riuscito, diciamo, a stabilizzarlo, a portarlo, diciamo, in linea. Però, diciamo, era un bel po' fermo, tutto lì. Ok, riprendi, Roberto. No, adesso sei chiaro, la modulazione è chiara. L'altra stava strappando, era quasi incomprensibile, cioè non va bene. Ok, io dico, la montagna in regola, lascia stare, non tocca nulla. Ti metti quell'apparato lì e te lo tieni per queste bande. Se vuoi andare per altre parti, ti utilizzi altre cose. Almeno io la vedo così. Devi trovare il punto giusto di tutte le cose e poi non toccare niente. Ehi, caparai, adesso perché mi sono dedicato, diciamo, a metterlo un po' in linea tutto quanto. Claudio già lo conosce, un po' fastidioso, però insomma, è tutto accentrato. Va bene, c'era Gianni, vediamo un po' se c'è ancora. Gianni? Gianni? Ah, non lo so se mi sei ascoltato, mi sono in mezzo in palazzo adesso. Lo senti, Sandro, già? Ma lo sento basso, evidentemente. Evidentemente, diciamo che è movimento, capito? Sono già una ragazza in mezzo ai palazzi, dai, adesso quando esco che vado a Ponte Nuova magari qualcosa va sì. Hai sentito, in mezzo ai palazzi e non riesci a tirarti fuori già. Vabbè, normale. Può essere normale. Ok. Sì, Sandro, lo conosco perfettamente. È un problema di quel tipo di radio così transistorizzate con lo stadio finale a valvole, quindi bisogna darle il tempo per potersi un pochino assestare. Io ho due linee complete, la riflessa è un pochino più veloce perché è tutta valvolare, ma il 101 è come quello che ho io, quello è Yaesu, questo è o è Sommer, anche quello se non mi ricordo. Io ho il Sommercal 101 FR, transistorizzato, digitale praticamente, non è a scala meccanica per capirci, però c'è lo stadio finale a valvole, quindi devi accenderlo, lasciarlo un pochino in stand-by, iniziare insomma a lavorare col preselettore e poi andare in trasmissione. Purtroppo con le radio sono così, però una volta che partono sono retroarmati, non hanno alcun problema, capito? Ehi, capo, vai, ok, io lo so, sono molto fastidiosi, vabbè, che adesso, diciamo, era quasi tutto il mattino acceso, quindi abbastanza caldo, soltanto in stand-by ho fatto qualche passaggio, però insomma deve trattare lui per andare bene, stabilizzarsi per stabilizzarsi, diciamo, deve scaldare un attimino. Infatti non si è attaccata neanche la ventola ancora, quindi deve registrare l'aereo, vabbè, tutto qua. Va bene, riprendi Roberto. Via. Dove va ancora sta? Dani, ci sei? No, negativo, non facevi votare a me. No, non sta più piovendo, vabbè, ma la giornata è più giovane. Capito. Non sta piovendo. Ma chi c'è in ruota? C'è qualcun altro che vuole entrare? Avanti. Io se non c'è altro nessuno, vi lascio che vado a pranzo che è già pronto, quindi al limite ci sentiamo più tardi. Ciao Gianni, buon pranzo anche a te. Roberto, idem, ci aggiorniamo domani mattina, mi faccio un salto da te. Ciao Sandro e chiunque fosse in ascolto. Alle prossime, ragazzi, dai, vi saluto, un buon fine domenica a tutti se non ci dovessimo sentire, ma comunque sono a casa, quindi magari stasera facciamo altre due chiacchiere. Gianni, porta il microfono, vedo un po' se ti sente Sandro, io vado a pranzo, buona domenica a tutti. Ciao ragazzi, va bene, dai Claudio, ci sentiamo stasera, buona carica anche a te, dai. Non so se Sandro mi sta ascoltando, sto rientrando a casa, va. Avanti Sandro, no. Scappa Gianni, ok, adesso sei passato tranquillamente, dai. Diciamo... Ok, diciamo che adesso sei tu, dai, poc'anzi negativo, evidentemente eri tra i palazzi. Adesso ti ascolto completamente bene, dai. Ok, come mi ascolti già? È bene, sa, ti ascolto bene. Ti ascolto bene come al solito, eh. Avanti Roberto. Dove sei arrivato già, mi hai detto? Sto vicino a casa adesso, eh. No, qua è sempre forte, se no non è cambiato niente. Ok, ciao Pla, se ci sei ancora, buon tutto, buona giornata, se non ci risentiamo stasera, tanto non credo di andare da nessuna parte con questo tempo, non ho una mancugana. E sono andato presto, sia oggi che ieri, per cui penso che si rimanga al calduccio in casa. E forse c'è qualche possibilità di parlare in radio con qualcuno. Dai, avanti di nuovo Alessandro. Ok, dai, ciao Claudio, buona carica, buon tutto. Si scrive, diciamo, in giornata, se non le prossimine. Ok, riprendi Gianni. Non so se Roberto se ne sta andando, le auguro una buona serata, se se ne sta andando, se ho capito bene, buona carica. Io lo stesso sono arrivato quasi a casa e ma essendo adesso vado a mangiare, se mi tocca. No, adesso sono qua in radio, io ho già mangiato veloce, no, non avevo problemi. Sono qua in radio, sono anche col computer acceso, faccio tutti e due. Se c'è qualcuno che mi fa compagnia, se no, già mi trovo qualcosa da fare, già viene in casa. Aspetta che arrivi. Che... Vai a imbarazzare. Adesso, chi è questo? Riparti. È più forte. Aspetta 5 minuti che arrivo e poi magari ci sentiamo stasera dopo pranzo. Aspetta, avete parlato in due già, c'è anche Antonio Grotte, avanti Antonio, poi ho sentito un altro parlare e non ho capito chi era. Ciao Roberto, ciao Gianni, rientrato dai, sono qua, in radioascolto. Radioascolto, bella questa parola. Oh, se mi chiamate rispondo. Ciao Antonio. No, perché lui dice, sono in ascolto, che ripresa te, sono in ascolto o sono in radioascolto? Vabbè, quando l'hai trovata? 32, poi ti faccio avere tutto quanto. Se lo guardi c'è su eBay, poi ti mando il link. Vabbè, vabbè, quando arriva quella roba me lo dici e ti porti su, non c'è problema. Non c'è problema neanche per quelli, figurati. Vorrei ci stavo pensando, poi ho detto magari si offende, allora è meglio che lo paghi, eh. Sto scherzando. Cavagava, ti ringrazio. Scherzando, l'occhio cavando, si dice. E allora, Roberto? State parlando? No, mi ha chiesto di ordinargli una cosina che avevo io. Ti ricordi il giorno che ci siamo visti, l'ultimo giorno? Cos'è, una bambola gonfiabile? Esatto, quella che parlano, però. Oh, un attimino, vabbè, che saluto questo signore, magari non si è accorto che sono in frequenza. Ciao Crote, buonasera. Mi dico, Sandro, non solo non mi sono accorto e ti chiedo venia assolutamente di questa mancanza, ed era proprio stamattina che pensavo a te, dico, ma non lo senti, è da un po' che non lo sentivo, dai. Ciao Sandri. Ben sentito, ben ascoltato e super cordializzato dalla stazione Grotte, operatore Antonio di Sassari Grande. Aspetta, allucinante come presentazione, non c'è male. Ok, va bene. Va bene, vuol dire che ti sia debitato un caffè per questa mancanza. Ok, dai, ne approfitto, vi saluto perché è pronto per fare la carica. Ciao Roberto, buon proseguo di giornata, alle prossimine. Ciao Gianni, ciao Crote, seguici dalle prossime o se no quant'altro. Ok, riprendi Crote. Ciao Sandri, facciamo coincidere, dai, ci vediamo uno di questi giorni, ci prendiamo un caffè molto volentieri. Riprendi Roberto, fai girare per i saluti a Sandro e poi riprendi tu, dai. Sì, ciao Alessandro, mi hai sentito, dai, tra modo di risentirci. Buon tutto, buona giornata. Ok, vai Gianni. Gianni, forse è arrivato a casa sua. A parte di scherzi, cosa stavi dicendo? Mi ha detto, Antu, mi ha detto quello che ti ho fatto fare l'altro giorno. Cosa mi hai fatto fare l'altro giorno? No, ti ricordi che c'avevo un Boafeng? San Marino? No, non è San Marino, che è San Marino. Boafeng, non mi ricordo neanche dove l'ho preso, cioè so dove l'ho preso, su eBay. Piccolino, Palmare. San Marino ho detto, cosa hai capito te? San Marino, ho detto, ma non era in San Marino, non so poi se rispediscano a San Marino, ma ho capito San Marino. Ma quelli sono dei B-Banda? Quelli sono B-Banda, esattamente, hanno la possibilità di radioascolto su tutte e due le bande oppure su una... Cioè, comunque ti appaiono tutte e due le frequenze sul display. Sono ottimi perché a 31 euro manco lo schiaffo in bocca. Sì, li ho visti su internet, i nuovi li vendono intorno ai 70 euro, 65 euro, e hanno un sacco di funzioni, puoi anche togliere l'antenna estraibile, puoi attaccare il microfono esterno, l'altoparlante esterno, sono veramente belli, li ho visti e sono veramente fatti bene. Tra l'altro, se non sbaglio, quello che ho visto io c'aveva la possibilità di fare un piccolo scanner, cioè una banda di frequenze, cioè allargata, per dire, trasmetti per dire da 144 a 146, però ti permette di andare da, per dire, da 88 a 200 mega. Negativo però, non, adesso non so che modello tu abbia visto, perché esiste l'UV5 e l'UV3, in questo caso stiamo parlando quello senza tastierino, tra l'altro molto comodo perché poi c'è una manopola che fa tutto ed è molto veloce nella selezione, un po' come uno scannerino, e costa davvero una miseria perché stiamo parlando di 31 euro, anzi 32, ha tutta una serie di funzioni, non ultimo la possibilità di essere, come si può dire, diciamo che i banchi di memoria glieli puoi mettere tramite il computer. L'unica cosa ha 2 watt, quello che ho preso io, però c'è anche l'UV5 che costa, come hai detto, una settantina di euro e ha 5 watt. Ma questo da 32, guarda, è una bomba, non ha nessun problema, davvero, ottimo. Poi se puoi mettere un'antenna esterna, ancora meglio. Ma l'altro giorno addirittura ho visto, riusciva a ricevere così, con l'antenna suo, c'era una buona ricezione pure. No, a livello di ricezione è ottimo, ha una sola pecca, che poi ho letto solo in un secondo momento sui forum, e cioè che quando è in carica non riceve bene, non so per quale motivo, evidentemente c'è qualche problema di corto, per cui niente, devi stare attento perché le persone parlano e tu senti silenzio radio, capito? Vabbè, a quel punto le togli le batterie, lo alimenti con l'alimentatore senza le batterie. No, negativo, manco batterie, non ha delle batterie stile o comunque delle batterie commerciali. Al pari di un telefonino, una batteria che funziona a 4,2 volt, mi sembra, 4,1. E ha questa prerogativa, non so, a dirti la verità non ho mai provato a alimentarlo senza batteria, devo provare a vedere se fa lo stesso difetto. Sì, vari c'hanno da qualche protezione per non surriscaldare, cosa che ti dica. C'hanno questi circuiti nuovi, di nuova generazione, vari, per evitare di riscaldare. Io l'altro giorno c'ho una radio, un vecchio VHF che mi hanno regalato, ma una cosa della guerra, ci avrà 40 anni minimo, se non di più. Un CTF, fate il conto. VHF, credo siamo, se non sbaglio, 144. E c'erano le batterie, quegli accumulatori dentro, ho detto quelli vecchi anni calcario. Non sono andato a alimentarlo, ho preso il coso dell'alimentazione, ho messo l'alimentatore che c'è io, quello dove alimento le radio. L'ho acceso e c'è iniziato a sentire questo odore strano, ho detto, boh, che strano questo odore, forse perché era tanto tempo fermo. Poi mi giro e inizia a uscire il fumo da dentro le batterie, cacchio. Subito infatti l'ho spento. Ma tu vedi come sono diventate incandescenti le batterie, alimentate a 12 volt, non alimentato fuori tensione. Non ho capito cosa è successo, o sono andate in corto le batterie, è iniziato a uscire il fumo, stava scaldando il cavo addirittura, si stava sciogliendo il cavo di alimentazione. E sicuramente la sostanza interna si è sciolta e quindi ti ha messo in corto tutto. Però cambia, adesso non so quanto vengono a costare, se ne vale la pena l'apparecchio assolutamente, non costano niente, vai da Fusaro e trovi. VHF, ma cos'è, un VHF marino oppure civile? No, civile, è uno di quei portatili grandi di vecchia generazione, enorme, grosso, c'ha il coso digitale, anche quello c'ha un sacco di funzioni, però è un bel ragione, ce l'ho da un po' di tempo, me l'hanno regalato, ma è roba in disuso che non si usa più. E questo tipo di radioline invece che ho preso io, perché poi ce ne sono 2000 adesso, dalla Voxum ne ho già due, poi c'è questa Boafing che mi sono preso, poi ci sono i Pixiung, ormai tu immaginati che bello, vedi, dalla Voxum è uscito il veicolare di banda ed è ottimo per prezzo e per fattura, perché poi quelli della Voxum fanno davvero dei begli apparecchietti. Costano 226 euro, ha un'uscita di 50 watt sia in U che in VHF ed è con chiaramente, come si dice, frontalino remoto, per cui lo puoi spostare all'interno della macchina dove vuoi con 5 metri di cavo annessi. E ci sto pensando, sicuramente me lo prendo. Ma ormai i cacchepristi sono calati tantissimo, vedi delle apparecchiature spettacolari, cose belle, che per dire 7-8 anni fa costavano 3 volte tanto. Adesso da quando sono entrati i cinesi nel mercato hanno ammattato tutto. Diciamo apparati radioamatoriali fissi, diciamo quelli ancora tengono prezzo. Però se tu vedi questi palmarini te li tirano a faccia, cioè apprezzi che dici non è possibile, perché se vai a comprare un antennino, un connettore, una affare del genere, tu mi stai facendo 32 euro, cosa cacchio ci mettono a farlo? 10 centesimi per venderlo così poco. Ma poi è impossibile, perché se tu vai a vedere cosa c'è davvero lì, c'ha tutto, nel senso che hai la radiolina con l'antennino piccolo, dopodiché c'è l'auricolare con la possibilità col microfono, il caricabatterie da tavolo, il caricabatterie invece da macchina, c'è tutto. Quindi, e non solo, anche l'accetto da mettere dietro, stile telefonino. 32 euro, ma cosa vuoi comprare? Cioè al giorno d'oggi non ti danno uno schiaffo in bocca con 32 euro. Sì, ma poi c'hanno un mito, c'hanno anche direttamente la connessione da attaccare al computer, lo puoi facciare direttamente col computer, cioè anziché lavorare con i tastini, il coso te lo attacchi al computer e lavori con la tastiera, cioè il display ti appare la frequenza, sono fatti bene poi. Ma perché gli hanno messo questo collegamento Kenwood che è composto da due jack, il mini jack e il jack normale, e quindi gli puoi costruire banche di memoria tramite un programmino scaricabile freeware che c'è su internet. E io e Voxum li piloto così, non solo, c'è la possibilità anche di entrare dentro la memoria della radio, la memoria ma non di banchi di memoria, quelli registrabili, e allargargli la frequenza senza fare niente all'hardware, quindi non lo tocchi minimamente, e tu gli allarghi la frequenza e scende cioè prende tutto, se scende quasi in UHF, scusami, in HF. Sì, ormai è tutta una cosa di cose, entrare sul menu, fare, diciamo, non è più come prima, devo rispettare per forza la componentistica, limitato dalle componentistiche interne, adesso fai tutto manipoli e fai quello che vuoi, e quello è il futuro. Ormai, vabbè, io sono contrario, diciamo, per il momento a utilizzare il computer come ricevitore o come trasmettitore, preferisco avere sempre la radio bella col manopolone, toccare i tasti, però visto questi nuovi Perseus e cose del genere, UPT, attaccare al computer, fanno delle cose da paura, cioè cose inimmaginabili sino a qualche anno fa. Beh, stanno per passare gli ultimi due treni, e sia tu che Sandro di Alghero lo dovete prendere, perché vi accompagno, vi prendo per l'orecchia, chiaramente scherzo, però se non questi due appuntamenti, poi si deve andare a Roma, quindi preparati, perché so che a breve dovrebbero istituire l'altro coso, l'altra bando per l'esame. Quanto a maggio? Cappa di Roger, io so che sono gli ultimi due, cioè fanno questa sessione primaverile e dopodiché quella autunnale, e dopodiché è finito. Boh, io questa storia l'ho sentita già da tanto tempo, dall'ultima volta, la prima volta che l'avevo fatto io, ogni volta dicono così, però vabbè che stanno tagliando tutto, le spese eccetera eccetera, a quel punto devi togliere anche il coso regionale, ne fai unico, per dire Italia Nord, Italia Centro, Italia Sud, ne vedrei a quel punto se vuoi tagliare le spese, non lo so, bisogna mai vedere, perché sinceramente questa storia qua è per me uno spreco farne uno in tutta, cioè in ogni regione, l'ho detto sempre dall'inizio, considerando quello che dicono loro, che è una patente eccetera eccetera, a quel punto fanno prima a fare un accoso in videoconferenza, secondo me, come fanno per certe cose, attacchi che vi elimini tutto quanto. Ti ripeto, c'è secondo me tutta l'intenzione di... Il problema è che quanto paga un radioamatore, quanto paga un CP? Stiamo parlando di 12 euro e 5 euro, no? Allora tu immaginati il fastidio che puoi dare a loro che devono venire a controllarti, o comunque allo Stato che deve assoldare delle persone che prendono comunque un signoro stipendio per venire a controllarti, muovendo mezzi e muovendo tutta una serie di altre cose. Cioè, a loro se scompaiono i radioamatori non gli sembra vero, se scompaiono i CB non gli sembra vero, a loro sto dicendo allo Stato. E quindi assoldano quelle persone che poi verrebbero infine licenziate perché non ci sarebbe più lavoro, o comunque farebbero un altro tipo di lavoro, quindi ci sarebbe una riduzione del personale per quanto riguarda i controlli. Però a quanto sembra, vabbè che c'è una diatriba e un po' di campanilismo giù a Cagliari, però sembra quasi che debbano chiudere la sezione qua a Sassari per quanto riguarda le scomposte. Non so che dici io. Cosa deve controllare? Sono quattro gatti, i civili quanti siamo a Sassari che fanno attività e conti sulle punte delle dita? A Sisi sono pochissimi, poi ci sono quelli che entrano ogni tanto, che escono, poi rientrano. Io faccio parte anche di quelli, perché se tu guardavi 3 o 4 anni fa eravamo una decina fissi, c'erano tutti i giorni. Adesso quanti ce ne sono? 3 o 4 continui, non di più. Poi a un altro orario te ne trovi un altro gruppo, non è più come prima. E tu... Cos'è quel rumore? Forse hanno lasciato qualcosa a casa mia, dentro le bambine. No, e la diamatura è la stessa cosa, sono sempre in via di cosa, di estinzione. Ormai ci sono altri mezzi di comunicazione, eccetera, eccetera. Prima il cellulare non esisteva, adesso attaccano il cellulare e ora ci viene a fare mangiare la pizza. Invece prima chiamavi per mangiare la pizza, entravi sul coso, io ogni fessiglia la dicevi per radio. Ormai i cellulari hanno soppiantato, poi c'è il computer, cosa vuol di più? Sì, ma infatti chi si è allontanato dalla radio per il computer non è certamente l'appassionato, perché comunque c'è sempre un'involuzione, un po' come per quanto riguarda gli apparati elettrici. Se tu guardi anche negli orologi, si è arrivato al top della precisione per poi ritrovare la passione di quello che era l'orologio meccanico, ed è quello che sta succedendo adesso col baracchino. Una volta che arrivi, sì, quanto può essere fredda poi una chat del computer, a parte che non sai se dietro già c'è una donna o c'è un uomo, a prescindere da quello poi la possibilità di parlare con più persone non ce l'hai in chat, parli con una persona e comunque è una cosa abbastanza, è molto fredda, stiamo parlando di pixel, qua quantomeno la voce di una persona la senti, dai. No, io la vedo come te, a me la radio mi è sempre piaciuta da piccolino, sono sempre stato un appassionato della radio e mai la rinegherò, diciamo, non posso dire niente da quel punto di vista, però noto che non è più come prima. E soprattutto succede questo, se la prendi bene, nel senso che se realmente utilizza la radio come deve essere utilizzata, se vogliamo è anche istruttiva, perché quantomeno ti mette nella condizione di parlare, volente o nolente, uno per volta. Non rinnegherò mai la CB, assolutamente, anche se qualcuno mi ha già accusato che da quando sono diventato radioamatore adesso non ci sto più in coso, nel 27, che poi non è così, non sono neanche più su, ma è una questione di tempo perché mi si è piegata l'antenna, devo rimettere a posto tutto e non ho avuto né tempo a livello, perché per motivi lavorativi né tantomeno per giornate come oggi che non sono sicuramente favorevoli a poter piantare bene la stazione, piantare bene l'antenna. stavo dicendo prima. Ma che antenna stai utilizzando tu per le V? Una gran plico? Le V e U, mi stai dicendo? Sì, c'è un'unica antenna o ne hai due separate? Ho un X300 che mi è stata in parte, che mi è stata donata dallo Sparviero. E Claudio è il coso, come si chiama? Su questo campo qui ha aggiustato un po' di situazioni, ha sistemato un po' di gente. No, Claudio è una persona generosa. C'ha altri difetti, sperando che sia in ascolto, che senta. C'ha altri difetti, ma è una, da questo punto di vista, se si toglie il pane di bocca, questo... Lo so, assolutamente, ma soprattutto anche con persone che magari non ne hanno bisogno, nel senso che io non avrei avuto bisogno, la potevo comprare, però mi ha fatto un gradito omaggio, ne sono più che riconoscente. Grande come dimensione questa antenna? No, è una X300, è un'antenna gran plena, polarizzazione verticale, adesso non so se sia cortocircuitata o se sia una gran plena. Comunque ha uno stilo verticale di 2 metri esatti e dei radialini che saranno una quarantina di centimetri, adesso non mi ricordo, mi sembra che siano 3 o 4, 4 forse, con aggancio, e quello è un po' un difetto di questa antenna, c'è un aggancio sul PL femmina, con una specie di staffa di cavallotto che va ad ancorarsi sul palo, capito? Ah, come le vecchie Grand Prix, quelle di vecchia generazione, ho capito. E questa ti fa le V e le U, tutte e due bande? K Roger, fra l'altro è grigia come antenna, perché schicchia forte, è rivestita, ha una barra in rame all'interno ed è rivestita da una struttura credo che sia in fibra di vetro. Ma c'ha radiali di diverse dimensioni? No, negativo, i radiali sono uguali. C'è una carica, come cazzo fa a lavorare su quelle due bande? Non so cosa dirti, non te lo so dire. Ha comunque una... Non credo che abbia neanche una carica, proprio ha una barra all'interno di rame e non ti so dire come realmente funziona. Mi sto ascoltando. C'è un condensatore all'interno che separa le V dalle U con una molla per interna in rame spiralata che separa le due bande con un condensatore variabile. Cazzo, non si può parlare male, vedi che è stata fuori. Ho ascoltato, non ti ho sentito, non c'è problema. Io sono sempre in ascolto, però le tutte le parti, io no. Quando mi vado rispondo, e quando non sto zitto. Era giusto per far capire a Roberto com'è. È una X300, quella che usiamo normalmente tutti i radioamatori. Continuate, che sono al computer. Io, molto costano per avere un'idea, un tipo di antenna, no, perché anche io per le V e le U, diciamo per ascoltare, parlo naturalmente, ho quella multibanda, ma mi sono reso conto non vale niente. Poi vorrò provare a metterla sul rotore, mettere una direttiva, una IAGI piccolina per le V, a vedere cosa succede. Allora, dico io, perché l'ho cercata stamattina, costa esattamente 75 euro una X300. Delle valide sostitute qualità prezzo o per quel prezzo non c'è di mezzo? Guarda, l'X300 per 75 euro è secondo me la migliore, tant'è vero che molte sono delle imitazioni, nel senso che ci sono antenne che dicono simil X300 che costano però 5 euro in meno, 10 euro in meno, a questo punto compri l'originale, capito? E io ne ho una piccolina, però non so se sia per le V, quella che ti ho fatto vedere, cos'era per le V, quella gran piccolina in resina che mi hanno dato? Sì, quella lì è simile alla monobanda che c'è Antonio, tipo Grand Play. Sì, ma ce ne sono dei diversi, praticamente c'è la X, parte dalla X50, anzi dalla X30, la X50, poi c'è la X300, la 510 che è quella più grande, quella che ho io, diciamo tutti. Ma tutti abbiamo comunque anche la X300 perché è una via di mezzo che insomma c'è poca differenza, non è che cambia molto dalla 510 alla 300, qualche dB differenza, niente di particolare, qualcuno lo fa per questioni di spazio, qualcuno lo fa così, insomma, diciamo che sono delle antenne similari, io ho anche la X50, tra ricetto della direttiva 9 elementi. E funziona bene anche quella, la uso in HF quando parlo con te, tanto uso quella perché sono separate le antenne. Fanno bene. Sì, anche quella c'è tu una monobanda, quella c'è Antonio, una monobanda per le VHF, tipo Grand Play con i radiali a 45 gradi, ma non è che cambia molto dalla XY300, siamo lì insomma. Aspetta, perché se no lo confondi, perché io a Robeccio ho anche una LEM che mi aveva dato questa ragazza che ha aperto giù il negozio della Wind in Viale Italia, dove c'era signor Usai, e si è liberata proprio, ha aperto il magazzino e mi ha detto guarda prenditi quello che vuoi perché ci sto buttando tutto, e aveva una decina di antenne di macchina della Intec, non so se ricordi quelle, c'erano un metro e mezzo di lunghezza con una carica piccolina, no? Antenne che non valgono molto. E dopodiché c'aveva questa Grand Plane che mi sembrava troppo corta per essere della 27, perché me ne ha date un po' di tempo fa quando ancora non mi interessavo di altre frequenze. E morale, me la son presa, ce l'avevo qua e non capivo se fosse una mezz'onda della 27 o se fosse una VHF, perché per essere VHF è troppo lunga. E però ti stavo dicendo, Clau, a proposito, ma la X300 ha tre radiali o quattro? Tu che ci ha allontanato Claudio, io voglio fare delle prove per scendere un cavo unico, mi sono rotto le scatole per portarne gli utenti, perché adesso devo montare la vita con l'antenna nuova che è arrivata, però voglio lasciare sempre la cosa, come si chiama, l'orizzontale la voglio lasciare, non la voglio togliere, utilizzare un'unica cavata con un commutatore o qualcosa, un duplexes, in modo da utilizzare un unico cavo. A proposito, quell'antenna, ho controllato la frequenza, hai ragione, è fuori su quelle frequenze un po' più basse. E no, ero convinto di arrivare a 160, invece arriva a 110, fa da 80 a 110, ero convinto da 80 a 160. Può modificare, basta che ne tagli un pezzettino calcolandolo e vedendo un attimino e la puoi abbassare, cioè la puoi alzare di frequenza. Sì, vabbè, non è proprio così, diciamo. La migliori un pochettino a livello di ROS, perché c'è anche le distanze, bisogna rispettare anche le distanze, perché sono molto critiche quelle distanze in quel tipo di antenne. Con le Yagi basta che ti sposti di un centimetro e modifichi completamente tutto. Ma dico, se la vuoi utilizzare magari con un accordatore un pochettino riesci a accordarla. Sì, hai ragione, ho detto una stupidaggine, perché c'è la distanza fra i riflettori assolutamente. Però la migliori dal punto di vista del ROS, ma ci vuole anche la distanza giusta. Sì. Ti stavo dicendo, no, perché io queste X300 le sto vedendo su internet, su eBay, con tre radiali, mentre invece la mia ne ha quattro. Aspetta, apro eBay solo per curiosità, si chiama X300, chi la fa? La LEM e quant'è? Chi la fa? Credo sia la LEM, se non sbaglio, Guarda un attimino, cerca antenne X300. Cosa, Anto, cosa? Ti stavo dicendo, la X300, quanti radiali ha? La X300 tanto non la Diamond, non la fa nessuna altra casa costruttrice. La fa la Diamond. E ha tre radiali in acciaio inossidabile, tre piccolini. Ma lo sai che la mia ne ha quattro? Secondo me non è una X300. Ma quella che ho fatto io? K. Al 900, al 300, 500%. Quella è la X300 della Diamond, tolta da me da sopra il tetto, quando ho montato la 510. È uguale alla 510 con tre radialini in acciaio inossidabile. Praticamente sono due elementi. Già l'hai visto come vulcanizzata, lì c'è il petto per tirare fuori la spugnetta che avevo tolto, eliminata, perché quella crea umidità al correttore di banda, mentre la X500, la 510 e la 500 che sono uguali, sono tre elementi, quella è due elementi con tre radialini piccolini, insomma a 30 cm in acciaio inossidabile. Aspetta che verifico un attimo. Sì, la sto guardando io, sono tre ferragliai, due vicini e uno diverso, ma sono di lunghezza diversa perché ci sono due corti qua, mi dice, e uno un po' più lungo. Poi c'è uno stilo centrale lungo, credo che sia in resina, e vabbè, i guadagni qua sono sparati al 1000, non esistono quei guadagni lì. E c'è scritto gamma operativa 144 e 430, ma non te lo fa in continuo, te lo fa su due bande diverse. I radiali sono uguali da 30 cm, l'antenna è in continuo, all'interno c'è lo stilo, all'interno c'è uno stilo rame che separa il bando, lo fa in continuo e i dB che ti dà, 12 dB sono esatti. Ah, non mi credo, no, cioè, vabbè, riferite a che cosa? Alle direttive che fanno con le misure lì. Fatti conto, con l'antenna che c'hai tu, direttiva, sulla 27 mi pare che abbia 7 dB di guadagno, vedete, una direttiva a 3 elementi, no, non è possibile non verificare, faccia, mi chiedo anche a Marco. Sto guardando le misure, è 3,40 m con l'antenna, non è piccolina qui. Non è piccolina, no. Guarda, tranquillo, 9 dB quella della Echo e 9 dB quella della LEM, quella per i 10 metri. Vabbè, quelle non sono per la 27, sono per i 10 metri perché fanno 26,30, non 26,28, 26,30, quindi sono per i 10 metri, sono adattabili per la 27, ma non sono nate per la 27. Stavo leggendo il manuale che ho aperto ieri, che mi ha mandato Marco, quelle sono per i 10 metri, sono le monobande nate per i 10 metri, e poi le hanno vendute anche per la 27. Capito. Comunque l'antenna, la X300 assieme alla X500 e così via, i dB sono giusti, la frequenza è praticamente diretta sia in V che in U, a banda intera, quindi una monobanda a banda intera, cioè una B-banda veramente quella lì, quella è una B-banda, perché fa V e U, e ti dico che ha delle prestazioni ottime, ma veramente molto molto molto interessanti. Basta la Raimond, non ci sono altre case costruttrici, ho cercato di copiarla, ma quando tu compri un'antenna di quelle che non è della Raimond, la puoi vulcanizzare dove vuoi, ti si riempie l'acqua perché il materiale è talmente scadente che tra il caldo e il freddo si crepa e fa entrare umidità e quindi te la mette in corto l'antenna. Non costa molto, cioè guardando le dimensioni io pensavo su un'antenna piccolina, invece è manna, 71-74 euro può comprare subito, cioè. Attenzione che non costa 74 euro, voi sapevate bene, se chiami la Marcucci e la ordini, o chiami la Diamond e la ordini, costa 110 euro, capito? Quindi se compra subito evidentemente stanno facendo degli sconti particolari per invogliare a comprare, però tieni conto che la 510 costa intorno a 960 euro, mentre la 300 costa intorno a 100 euro, 110 euro, una cosa del genere. Te lo dico perché ne ho comprato talmente tante che mi sono stufato tutte le misure, dalla 30 sino alla 510, che è la più grande, anzi, la più grande è la 7000, quella la tribanda, che fa VHF, VHF è 1200, e c'è la Walter, c'è la Marco, c'è la Vittorio, ma siccome io 1200 non ce li ho, quindi non mi interessa mettere una di quelle. Marco, ti ho perso, ti dice, ci sei ancora? Sto verificando il numero dei radiali di quell'antenna, perché io mi ricordo 4, vabbè. Aspetta un attimo, non vi do risposta. No, ci metto la mano sul fuoco, con il fuoco alto 2 metri, con le tre radialini da 30 cm acciaio inossidabile, e l'antenna la bibanda a due elementi, praticamente due elementi verticali. E io Claudio posso utilizzare con questi duplexer due antenne con lo stesso cavo in ricezione? Certo che sì, come no. Cioè mettere l'antenna con la direttiva che fa con la banda da 80 a 110, lo stesso cavo e poi affiancarla all'altra antenna della 27 e scendere con un unico cavo, posso farlo? Certo, se è duplexer sì, ma ti puoi fare dal duplexer prima dal commutatore, un ingresso sul commutatore e poi l'uscita dal duplexer, in modo che praticamente usi un ingresso su una radio e un ingresso sull'altro con due antenne separate. Perché? Perché il duplex ti dà la possibilità di commutare due antenne diverse con due bande diverse. No, aspetta un attimino, noi stiamo dicendo due cose diverse. Allora, io ho un unico cavo, un'unica calata, e la voglio fare andare al trasmettitore, quell'unica calata, però alimentare due antenne, so farlo io. Non è passato tramite il commutatore no, perché altrimenti ti entra la radiofrequenza sull'altra radio che stai usando. No, no, io parlo con un'unica radio, cioè utilizzando un'unica radio, poi l'attacco, stacco il capo d'antenna e mi collego all'altro apparato. Sì, se usi una radio sola, sì. Perché tu normalmente questo discorso lo fai viceversa, cioè tu fai un'unica calata d'antenna e poi arrivi con due cavi giù. Ad esempio c'ho il commutatore a 3, quindi c'ho un ingresso sul commutatore, io ho due commutatori da 3 e da 3. Adesso devo aggiungere un altro perché la direttiva praticamente entra un altro commutatore e poi faccio le uscite per le varie radio che mi interessano, ma io uso diverse radio e diverse bande, tu in questo momento non lo puoi fare, quindi te la usi così. Capito, però è più o meno come la sto usando io commuto un ingresso a 3 radio, un altro ingresso a 3 radio, tu invece fai un unico ingresso con quindi un'unica antenna la vuoi usare in due bande diverse con la stessa radio. No, io ho l'antenna, diciamo, facciamo un esempio, un'antenna per le V e un'antenna per le 27. E nel duplex l'attacco, una della parte c'ha due uscite e una calata. Un'uscita d'antenna l'attacco a una parte del duplex e l'altra uscita dall'altra parte. E poi quel filo, il terzo filo, lo mando direttamente all'apparato che mi interessa trasmettere. Vedi, adesso voglio andare in 27. Schiaccio il 27 e utilizzo quell'antenna della 27. Stacco il coso, voglio andare, non ci posso andare, ma dovendoci andare sulle V e attacco sul coso. Quello sto dicendo. Sì, ma vabbè, cerchiamo i capricci. Duplex, che cosa intendi? Perché il duplex che usiamo noi praticamente è un barilotto con un ingresso di 259 dove tu attacchi l'antenna e ci sono tre cavi di uscita sul duplex VHF. HF oppure fa VHF, UHF, HF, ok, a tre uscite, tu quale c'hai? No, io non ne ho niente, è quello che ti sto dicendo, stavo pensando così, perciò bisogna fare col discorso dei relè coassiali, però devi portare un altro cavo per alimentare e ti commuti le antenne che vuoi tu, però costa un sacco di soldi, l'ho visto, un relè coassiale ti costa una mazzinata di soldi, quello che interesserebbe a me. Io stavo pensando, siccome lo sto utilizzando solo in ricezione il discorso, prendere, metto tu c'hai a tre uscite, ma c'è anche a due uscite. Io ho l'antenna orizzontale per la 27, l'hai vista? E più ci metterò questa antenna alla verticale da IAGI, montata sullo stesso palo. Voglio utilizzare il duplexer al contrario, alimento le due antenne, per dire, uno di queste parti del duplexer l'attacco alla direttiva, l'altro l'attacco all'altra, come si chiama, l'orizzontale. E poi con quel cavo che esce, diciamo, la mandata, lo mando direttamente all'apparato che mi interessa andare, al ricevitore. Duplex non lo puoi girare al contrario, ecco quello che non ho capito. Duplex devi usare come ci sono anche le frecce, non si può usare. Quindi la prima attacco col PL ci devi agganciare l'antenna e praticamente devi usare le uscite come la manuale, perché altrimenti non va bene. Ma il duplex in parole povere voi lo usate come un commutatore automatico, cioè anziché mettete a usare il commutatore e quello ce l'ha già diretto sulle radio, così è. Esatto, io ho due radio ad esempio, ti faccio un esempio, 7004 e l'8 l'altro radio la chiamo, che sono uno di banda VHF e UHF, il 7004 invece ho tre banda, no? VHF, HF 50 mega, siccome io il 7004 lo uso in VHF e il 790 lo uso in UHF, allora la 510, l'antenna grande delle VHF, cioè il duplexer V e U, ingresso unico, i due cavetti di uscita, uno è attaccato al 7004 per le VHF, quella delle UHF è attaccata all'altra radio. Riprendo. Sì, l'ho confermato, tre radiali, e lei è lì. Dal 1900, mi pare 90, 89 usavo quelle antenne, conosco perfettamente, sono sempre tre radiali, tre radiali piccolini, 30 centimetri, non c'è una oscillabile, bibanda, ma anche con la X30, che è la più corta che c'è, che mi pare che sia un metro, è sempre B-banda, capito? Sono su quelle antenne, sono nate B-banda, però ci sono i vari, le varie misure che ti consentono appunto di guadagnare più di B, quindi dalla X30, la 50, la 300, la 500, la 7000, la 7000 è la tribanda, capito? Fa anche i 1200. Sì, vabbè, lo puoi fare, però lo puoi fare comprandoti il duplex a 4 che esiste, mi pare lo faccia la, sempre la, la Rolex, la Diamond, adesso non ricordo quale altra casa costruttrice, non mi ricordo, comunque dove il catalogo, se ti serve magari te lo faccio vedere domani. 4 uscite, quindi un ingresso a 4 uscite che fa VHF, UHF, HF e 1200, quindi qualsiasi cosa ti serva tu ce l'hai, perché puoi, puoi farti le connessioni così, però sempre con, seguendo i cavetti di uscita, un ricongresso con tutte le uscite sue, capito? Non li puoi invertire, quindi li che sono uscito. No, assolutamente no, quello il duplex no, il duplex no, perché altrimenti ti andrai bene in cortocircuito e faranno la radio, mentre col commutatore lo puoi girare al contrario, il commutatore l'antenna e fare un ingresso, tre uscite oppure tre antenne, un'uscita su una radio, ecco, per capirci, quello lo puoi invertire perché non c'è niente, però il duplex all'interno c'ha delle resistenze, c'ha connessatore, variabile per banda e quindi no, non viene bene. Volevo chiederti, trovami qualcuno che si prenda questo 48 qua, c'ha una scheda Echo Colt e poi nient'altro, abbastanza semplice. A me dica, fa tutte e due, se trovate qualcuno che se lo carichi, ma sempre perché voglio investire in qualcosa di mi voglio liberare un po' di mondezza funzionante, perché questo l'avevo pagato anche un bel po'. Sì, anch'io lo stesso, sono liberato di tutta la mondetta funzionante, come dici tu. Se lo sapevo prima, io ho dato anche il mio, l'Alan 48, a Giampaolo, che serve per mettersi nella moto, poi ne stava cercando un altro, ma non so se l'ha trovato comunque. Provo a sentire e te lo dico. Va bene, vai, vedi un po'. Questi esperimenti sono fattibili seguendo sul duplex, non c'è da sbagliare, devi seguire per forza i connettori di uscita, i cavetti che c'ha in dotazione, mentre sul commutatore puoi fare quello che ti piace, allora lì puoi gestire, ma sul duplex no, non c'è niente da fare. Vabbè, vi saluto, riprendete le vostre chiacchiere, io vi ascolto volentieri, mi sposto di banda, vedo un po' di... che ho sentito Marco poc'anzi che chiamavo, semmai ci sentiamo più tardi anche con te Antonio. Alle prossime, attento. Ciao, io rimango in radioascolto lì. Ti volevo chiedere quanto si può dare una cosa del genere, parti dal presupposto che è il vecchio modello questo, cioè quello non microcircuitato ma è proprio il primo modello che era uscito. Il 48. K. Tanto ci sono tanti prezzi, dipende sempre da quello che vuole spendere poco, vuole spendere molto, ma io penso che non si possa dare meno di 100 euro, insomma. 100 euro? Se l'ho pagato il doppio. Ti ho detto c'è una scheda Echo Colt, esce con i watt maggiorati, ma quello lì è il minimo. Sicuramente io l'ho strapagato, però sistemata bene la scheda Echo schicchia questo, Ti dico il mio, l'ho pagato 400 euro da Gigi Vulcano, quindi ti dico cosa ci aveva i canali, quindi 40 più 40, la regolazione dei watt, quindi il finale è sostituito, la regolazione dei watt da 0, proprio da 0 watt a 40 watt modulati, ma li dava tutti perché mi ha crepato anche un linearetto della ZG, poi c'era la scheda Colt, il frontalino illuminato in blu, il beep, insomma tutto quello che c'era, l'ho pagato 400 euro nel 2006, l'ho usato pochissimo così tanto per fare un po' di cagnara, un po' di bordello, e poi l'ho messo tra l'armadio, ultimamente l'avevo tolto, adesso l'ho dato, l'ho venduto, l'ho dato a Giampaolo Silvestri. E il valore che avevo, insomma, cercato di valutare un pochino, era sulle 300 euro. 300 euro, l'avevo parato 400, 300 euro, questo è quello che aveva il mio, poi Il mio era l'ultimo praticamente, quello che si illuminava anche il frontalino, 300 euro. Non so che voleva avere la modifica, però vedi tu. Io l'ho venduto quello, poi secondo quanto l'ho pagato, vedi un po' di tirarne fuori almeno i soldi che hai speso, insomma. Tu poi c'hai i canali, e la modifica per i watt, però non li puoi regolare. E la scheda eco con la possibilità di regolare l'eco, quantomeno la cosa, la velocità dall'esterno. No, mi era tutto regolabile, sia Mickey Game, ecco, watt, aveva alcune cosettine in più. Vabbè, vedi tu, fai un pezzo eco dove puoi realizzarti la spesa e tirarne fuori quei soldi, non so quanto l'hai pagato, quindi io ho pagato 400, l'ho venduto 300. 200, probabilmente senza nessun problema. 200 euro so di averlo strapagato, però dovrebbe funzionare, cioè funziona abbastanza bene. Dai, se senti qualcuno poi la cosa ne possiamo anche parlare, visto che l'ho usato, quindi posso anche scendere come usato, nel senso che me lo sono goduto, quindi posso dare un prezzo anche al fatto che l'abbia goduto e scendere di qualcosa nel prezzo di vendita. Dai, buon QRX, QRT, ci sentiamo dopo in altre frequenze. Avanti Roberto. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao a tutti e due. Va bene, sento qualcosa di avviso. Già, ci sentiamo in altre frequenze. Ciao a tutti, buon fine domenica. È cambiato. E niente, sì, ma guarda, quell'antenna lì che hai preso, quella direttiva, realmente si potrebbe anche ricostruire. Io ho un libro di... ma poi adesso ormai con internet, figurati. Quanti ne vuoi, ce ne sono dei progetti. Ti compri un... come si dice, da Brickoman, un profilo in alluminio quadrato, rettangolare, ci sono anche le aste per poterlo fare, probabilmente te ne fai quante ne vuoi di direttive. Sì, no, ma ce l'ho già pronte io addirittura ne ho, con la 27 c'ho una cubica pure già pronta da piazzare, ma non ho già tempo di nulla, non me ne frega più niente di quella, va bene la matto, ma tanto preferisco mettermi una di queste direttive di questo genere qua, IAGI, per ascoltarmi qualche stazione di Puri, li paghiamo 88-808, oppure ascoltare le V, mettermi una per le V a più elementi che occupano meno spazio. Prima avevo pensato di mettermi questa cubica, però ho detto, ma che cacchio, se non c'è nessuno, cosa me ne frega? Io che hai messo l'antenna, però non c'è nessuno. Poi una IAGB banda UEV ti costa 70 euro, quindi lo stesso se vai a vedere su internet, su eBay. Sì, ormai le antenne sono le vista, poi ti fa un giro di questa roba militare, tipo come ho fatto io la vista, quella che c'ho io. Se tu con l'antenna ti metti a costruirla non ti bastano 200 euro con tutta la roba che c'è, tutte le connessioni, tutti i PL, la norma 1000, le rondelle inox, la bulloneria inox, hai visto cosa c'è di materiale allucinante. Sto cercando io se trovo l'occasione un apparato base per le cose. Apparato base, ci sono veicolari a poco prezzo, a un centinaio di euro. Ah, veicolare ce l'ho io, ma non mi piace, preferisco qualcosa di carino, anche maneggevole con i tasti, un po' più grosso, dai. Quello non ti so dire, c'è solo fumo. No, già le sarebbe bibanda, però bibanda costa un saccaccio di soldi, ce l'ha bello quello che c'ha Fabrizio, quello è veramente bello. Lo so. Va bene, dai. Mi sa che è venuta l'ora della pennica. Vabbè, ci sentiamo più tardi. Rimango in radioascolto, nel senso che lascio la radio accesa, ma è difficile che reintervenga. Gianni non è arrivato a casa, ha mollato così, non si è più sentito. Non lo so, forse doveva andare a mangiare, ha detto, rientrava perché stavano facendo pulizia a casa loro, arrivava e poi probabilmente era pronto per mangiare. Ok, adesso anche io spengo, mi faccio una chiamata generale se c'è qualcuno che mi ci stanno chiudendo sugli occhi, sono un bel stanco, mi faccio una riposata qualche oretta, se ci riesco, un'oretta almeno per ricaricarmi e poi magari ci si sente stasera. Dai, ti saluto, ciao, buon tutto Antonio. Tutto ricambiato al centro, velocemente, ma tu non eri allenatore di calcio? Infatti ti ho detto, mi sono stato preso stamattina, ieri ero impegnato lo stesso. Tipo, scusami, si è spenta la radio. Ieri, sono arrivato fino a ieri. Che ieri ero da presto, sino alle 7:15, dalle 2:15 che sono uscito dal bagnato. E stamattina da presto, presto relativo, sono andato alle 9. Però ha giubilato un poco di leva, meno male ero abbastanza coperto. Poi hanno sospeso la partita perché non si poteva giocare, c'era troppa acqua. La categoria che così? No, ragazzi, stiamo parlando dei ragazzi. No, gli adulti li ho mollati, se ne occupa mio fratello. Diciamo, io coordino e basta. La parte della logistica, mi occupo più dei ragazzi. Ma si chiama la squadra? W, Villier. E la grande Villier, ci ho giocato anch'io, lo sai. Addirittura? E non so se si allinei ancora più alle punti, nel campo dei punti dietro. Io mi ricordo, facevo il portiere, ed ero portiere, se non mi ricordo in che categoria eravamo, e era il professore. Professore, l'allenatore si chiamava, lo chiamavano il professore, adesso non mi ricordo neanche il nome, perché ti parlo, forse avevo 17 anni, quindi stiamo parlando di 23 anni fa. E poi ho giocato nell'Audax, proprio lì vicino dove c'è il tabacco. E poi avevo fatto anche la Monserrato. Il problema è che io sono così da quando sono 1,72 da quando avevo 10 anni. Dopodiché però mi sono fermato, quindi come portiere meno di zero vale. Allora, professore, noi abbiamo avuto diversi professori di scuola. Io non so in che fascia di età hai giocato, tu, perché c'è stato, certo che è stato anche il presidente Buonanima, quello proprio professore. Per Antonio Carta, quando facevamo la Juniores, lui allenava la Juniores ed è stato un professore di scuola. E poi c'è un altro professore di educazione fisica, ma quello credo non l'hai conosciuto perché è venuto dopo. Non lo so, lo chiamavamo il professore, poi non so se lui realmente lo fosse, ma credo sì, una persona abbastanza corpulenta, con i capelli neri. Venta, no. Mi diceva, per certo non sicuramente. Antonio Carta fisicamente era messo bene, alto, 1,80 m, giusto come, ma non era grosso, diciamo messo bene fisicamente, cioè grosso nel senso grasso, era un bel fisico aveva, fisico da atleta. No, negativo. Era solamente poi caratterialmente, mi ricordo caratterialmente era un po' rompiballe, ma ho giocato per poco, sto parlando proprio di mesi, perché realmente io ho giocato più nell'Audax e nella Monserrato Calcio. Nato di Cano sì. 72. Sto cercando di capire con che fascia di età. Dimmi qualche nome di qualche compagno se ti ricordi. Guarda. Sai che devo dire che è proprio una luce spenta quella lì, meno di zero, perché avendo giocato in tre squadre diverse, o meglio in tre società diverse, confondo un nome con l'altro, quindi zero. Sai che devo dire che non se tu ti presenti con me dopo 10 minuti ti devo richiedere come ti chiami perché non me lo ricordo. Che è successo? Alzheimer da piccolino l'hai preso, sto scherzando. Ciao Gianni. No, tutte e due possono prendere una o l'altra. Vabbè signore, anche io adesso attacco, e faccio un pisolino leggero, mi guardo qualcosa di... No, le partite non sono ancora iniziate. Ci sentiamo magari più tardi, dai. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Antonio e buon tutto, se non ci sentiamo. Ciao Robe, mi sentite, ciao avanti. Ciao Robe, ci sentiamo presto, dai. Gianni, mi sono chiesto dove eri, ma come mai non ti è già calata la saliva sul cuscino? Perché non mi niente. No, che rema niente, a me mi capita spesso quando mi addormento che apro la bocca per respirare e mi trovo con la chiazza schifosa nel cuscino. Ah no, a me no, non sono sbavone. Quando ti viene quella specie di sonno bambino, come quando avevi 6 anni che ti coricavi di pomeriggio, mi viene così, finito, e mi si spegne la luce e mi si riaccende verso le 5 del pomeriggio. Io dico che ho dormito come una pietra, io metto un cantone che non mi rendo conto di me, l'ambulanza qua sotto c'è, che ho dormito come un cantone che non mi rendo conto manco se è giorno o notte quando mi sveglio, non capisco, ho perso l'orientamento. Papà, ti dovevo ragguagliare però in merito a quella cosa della manifestazione. Io la sto prendendo la piazza non per questa domenica che deve venire, perché sono in Sicilia, ma non so se ce la faccio per la prossima o per la prossima ancora, però la cosa burocratica è già quasi tutta espletata, quindi è come se fosse già in atto. io devo partire domenica in Sicilia, ci sto 6 giorni, quindi non ci sarei, ed è per quello che invece preferirei un attimino esserci, quindi questa domenica che viene no, la domenica prossima ancora no, quella dopo, quindi fra 3 settimane, in modo tale che abbiamo come si dice, il modo di contattare anche gli organi di stampa, fare una piccola intervista, al limite usciamo su DLG o su Antenna 1 e vediamo di fare le cose come devono essere fatte, dai. Andare, buono a sapersi. E quando vai domenica, detto, quindi lunedì, martedì, mercoledì dovrebbe arrivare con la... Che cosa, scusa? La cosa che mi aspettavo... Allora tu quella cosa dimenticatela. Dimenticatela perché ci mette una vita, capito? Quello non te lo posso assicurare, perché lo stesso quando l'ho ordinata io, immaginati che l'ho ordinata il 6, va bene che c'era un'effettività, mi è arrivata dopo 20 giorni, perché è arrivata dalla China. Capito. Con Gribaldo stavo salutando Roberto, ho chiesto prima di te, ma evidentemente ti stavi mangiando l'anchi di Ravanca. Quindi adesso vado a farmi un po' di tecnica. Dai, ci sentiamo dopo se coincide. E tutto alle prossime. Ciao, già. A dopo. Ciao, ciao. Buon riposo, va. Ci sono su 5, va. Ciao Antonio, sono stato in tempo. Salutoni a tutti. Ciao Gianni. Un attimino Gianni, sto prendendo la cosettina. Dai, fai. 4. Gianni, no prorro. Me la pioggia ha fatto uscire tutti i funghi, ha fatto spuntare, vedi, tutti spuntando sta. Gianni. Qui, e allora? E allora, tutto bene? Insomma, ciò che è bene, Giuseppe, non tutto può andare bene, ma per andare in peggio meglio così. Quando ti stavo dicendo, Giuseppe, per me non te la vedi con l'apparato là? Ehi, bene, bene. Meglio così, dai. E cosa ti sei preso in cambio di quello? Adesso ho preso un piccolo, quello che hai ascoltato stamattina in macchina. E quello va bene, si sente molto bene la radio, molto forte, ma l'ha già amplificato. No, negativo, niente. Minata con quella questionera e il microfono normale. Esce molto bene, complimenti, esce molto bene. Anche la radio è bella forte, sembra amplificata. Non è che l'ho venduta, l'ho dato a mio compare, capito? Perché gli abbiamo piazzato l'antenna, c'era la campagna nella zona di Monte Oro. Mi ha chiesto da tempo, mi aveva chiesto se procuravo una radio, perché anche lui voleva fare parte del coso, sentendo me, voleva far parte del coso del CB, e ho detto vabbè, ho detto coppa, non c'è problema, la radio ve la do io, e basta ricomprate un'antenna, siamo andati da Tonino CBC e gli abbiamo fatto mettere uno, gli abbiamo preso un'antenna tipo quella che ho io, capito, una BL27 e gli abbiamo piazzata con Antonello Pompugno tutto quanto e adesso ha detto che faceva quel versamento di 12 euro e poi poteva entrare. Ha detto vabbè, fai come volete, ho detto fate come volete, ho detto se volete entrare già mi trovi. Beh, io ho fatto bene, così almeno si amplia la gente. Cosa ti sto dicendo? Ma l'elemento che deve fare la domanda prima di fare il versamento. Gli ho detto, gli ho dato la domanda, ne avevo una di fotocopia, no? Gli ho detto, glielo ho fatto vedere come si compila e tutto quanto, lui ha fatto questo versamento di 12 euro e poi è andato alle poste lì a Carbonazzi e ha fatto tutto quanto. Penso che le arriverà in giorni, dovrebbe arrivare la concessione. Appena arrivano Giuseppe, con un'autocertificazione che lui si doveva fare duplicato. Dobbiamo fare il duplicato di quella lì e l'altra l'originale e spedirla, capito? Ho capito già. adesso... Adesso vedo un po', io adesso sono già... Da poco sono senza sentirlo, da sarà neanche una settimana. E adesso, quando mi telefona, perché ogni tanto mi telefona, mi dice, me ne venite qua a cena o a pranzo. Faccio, vabbè, adesso, se non ce ne devo fare qualcosa, già mi faccio sentire. Siete in buoni rapporti, là. Cappa, siamo in buoni rapporti, c'è mia comare pure, che ogni tanto mi chiede al marito, dice, ma compare, dunque, compare, perché sta facendo qualcosa, oppure qualche lavoro, non so. Mi ha telefonato anche da poco, settimana scorsa, mi ha detto, vabbè compare, cosa state facendo? Ha detto, niente, sono fermo. Ve ne venite a pranzo in questi giorni? Ah, vabbè, se non devo fare niente già vi faccio sapere. Lo fa piacere, da. Quando ti cerca lo fa sempre piacere. Gianluca, sei rientrato. Gianluca! Attento collega, si ascolta Italia. Se c'è preparazione, c'è la sintesi. Forte pure, e anche al 6, cazzo, mi arriva anche 9.15, Radio 5, qua. Cosa sono? Spagnoli? Non lo so, io sento solo la modulazione, però che mi arriva un bel forte. Questa è sempre la radio che uso in macchina, giusto? Questa è sempre quella che avevo in macchina, il Galax. E anche questa va molto bene, ma tu c'hai una timbrica di voce che fa andare i microfoni. Sarà la voce mia già, vabbè, è così, e non c'ho niente, mi serve un coso, da adesso se riesco a buscarmi un alimentatore, quello per, come si dice, per ampliare quella questione là, quella da 100 watt, capito, che avevo prima, ti ricordi quello grigio che mi avevi verniciato tu? È quello, sto cercando un alimentatore, almeno di 30 watt. Quello che si è spaccata la bomboletta mentre stavo verniciando? Quello lì. Casino quel giorno. Se non si fosse spaccata stavo facendo così bene. Vabbè, pazienza. Casino, Adesso vediamo di procurarlo, vediamo un po' se riesco a qualcuno, si chiede se ne hanno, che questo alimentatore era 30 watt, se non te lo prendi su internet, guardi, te lo compri nuovo direttamente, ci se non sbagli. Forse faccio prima, me lo compro su internet e così risparmio tutto quanto. Non costano tantissimo. Quanto costeranno? Sulle 50? No, di più. Quanti ampere lo vuoi? Se lo prendi 50 ampere costa 135 euro, quello sono sicuro. L'altro è sulla 90, 80, 90, dalle 80 ai 90. Mi serve solo per ampliare quella cosa là, hai capito? Quelle 100 watt, hai capito? Me lo metto qui a casa e me lo utilizzo, cazzo, per essere buttato, cazzo, perché non utilizzarlo? Ma per ampliare o per pilotare? No, per ampliare, per il coso, per farlo andare, capito già? Per farlo andare, almeno se c'è questo coso di... Perché quello piccolino di 13 watt, 13,5, non ce la fa. Non è provato, dai. L'ho provato, ma no... Non va bene. Era un cosa, mi aveva prestato mio fratello, e non va bene. Ma vanno molto bene quelli della Switching, io ce li ho, vanno, magari lo dicano, a me vanno benissimo. Vabbè. Adesso vediamo un po' come si mette la questione. Adesso guarda, domani devo fare un giro per cercare questo centro del ricordo, per farmi mettere mio figlio all'istituto, ho capito, dunque, perché San Camillo ha chiuso, dove era sempre, hanno chiuso il reparto dove c'erano i bambini, quelli, come mio figlio, ha chiuso, e dunque non so dove andare a sbattere la testa, perché se no rimane sempre richiuso in questa casa, non esce mai, capito? Solo il sabato che vado a prenderlo io, e faccio, stavo pensando quello che c'è dopo via Milano, lì, a Gesù Nazareno, vediamo un po' cosa mi dicono lì. Bisogna vedere, perché lì so che hanno dei deficit di pagamenti, di cose, non stanno più pagando il personale, dice anche mio nipote. Vabbè, ma il fatto che lì mio figlio cammina tranquillo, solo che le manca la parola, capito, non c'è, capito già. Ma lui cammina da solo? Camminava solo, sì, camminava solo, vabbè, giustamente lo devi prendere per mano, però hai capito, camminava solo, non lo porti in braccio, ce la faccio a portarlo in braccio, già, vabbè, pesa 35 kg, adesso fra martedì fa gli anni, 17, dunque, e comincia a essere un bel ragazzino, hai capito? E lì li fanno fare diverse cose, li fanno lavorare la ceramica, ci sono i corsi di computer, fanno gite, vanno anche all'estero, insomma un po' di... Vabbè già, ma mio figlio ci vuole, a parte ci vuole la, come si dice, la maestra di sostegno, perché se deve andare in bagno non va, non può andare perché c'è il panno, c'è ancora il panno, dunque quando è cagato, è pulito, è sporco, le devi fare la doccia e tutto quanto, lo devi cambiare tu e tutto quanto, hai capito? Ecco, e vabbè, vuole seguito come tutta la persona che non sono autosufficienti. Vuole seguito come tutte quante le persone che sono, che non ce la fanno a fare quella cosa, hai capito? Dunque, adesso vediamo, ti fanno un giro domani, lì, in quello centro, vedere un po', a parlare con questa persona che frequenta il circolo, che c'ha il figlio lo stesso lì, a Gesù Nazareno, o fammi dare il numero di telefono, una volta mi dà il numero di telefono, li telefoniamo e proviamo a parlare, vedere cosa dicono. Ma ha chiuso San Camillo? Ha chiuso perché non stanno pagando, non gli stanno dando gli stipendi, capito? Dunque c'è solo come si dice, rimanda solo la cucina che va a portare il mangiare per gli ospedali e basta. Guarda fatto lì, e poi gli altri sono tutti quanti chiusi. 5, chi è? Ciao B1, buonasera, da questa parte Leoncino, perché il super saluta cordialmente. Mi copi B1? Dimmi, avanti. Capito. Oh, passa sul 10, B1. Capito, sul canale 10.